Ed è anche questo, se vogliamo appunto ragionare anche sui numeri, un numero abbastanza importante per noi, perché così conferma un'esperienza di 15 anni di lavoro in questa direzione e richiede forse anche proprio per questo una verifica più forte e una sperimentazione più forte. 30 settimane appunto, che significano così centinaia di persone, di giovani e più anziani ricercatori che qui si sono conosciuti e che hanno portato avanti un discorso che direi quasi appunto è cresciuto per se stesso e da se stesso, con il nostro intervento solo in funzione di sostegno e di servizio. Ma a me tocca soltanto fare un saluto e un ringraziamento. Un saluto a nome dell'Istituto Trentino di Cultura, in particolare del Presidente, il senatore Bruno Kessler. Oggi i politici di Trento sono impegnati in altri non felici occasioni, perché si tratta della morte di un consigliere parlamentare regionale. I saluti anche da parte del comitato scientifico dell'istituto e in particolare del presidente del nostro comitato scientifico, il professor Adam Wandruska, che arriverà per la prossima settimana ma non è potuto venire queste settimane. Molti che hanno frequentato altre settimane conoscono anche il senso delle parole introduttive appunto che accompagnano questo saluto di solito. E quindi annoierò forse alcuni che sono già venuti altre volte, ma ritengo opportuno in pochissimi minuti riesporre proprio questi punti fermi che hanno guidato il nostro lavoro in questi 15 anni, non per farne dei tabù, anzi per sottoporli, come dicevo prima, a verifica, ma per renderli ben chiari, ecco, e ancora più chiari quest'anno. In occasione del trentesimo, anche in occasione, credo, di una circostanze generali che impongono appunto una riflessione più attenta. Fin dall'inizio, nel 1973, questo istituto fu detto allora appunto come stazione di posta tra l'Italia e la Germania, stazione di posta per il cambio del cavallo e anche per il cambio della mentalità. È stato uno slogan che abbiamo sempre ripreso e che io adesso richiamo con molta forza, in vari sensi, ecco. Cioè non abbiamo l'ambizione di costituire un istituto di ricerca, diciamo così, che produca in proprio una elaborazione culturale. Siamo pochi, siamo nati in una zona in cui non esistevano nemmeno gli strumenti per questa elaborazione. Quello che vogliamo essere e che abbiamo cercato di diventare soprattutto, direi, con una biblioteca animata, vorrei dire con una biblioteca fosse fatta non solo di libri ma di studiosi e di libri mescolati, ecco, abbiamo voluto costruire un servizio appunto per le due culture. Questo va, almeno nella mia responsabilità, ribadito di fronte anche ad alcuni, non dico pericoli, ma certo tendenze a volere localizzare l'istituto al servizio stretto della società trentina. Io credo che l'Istituto abbia questo compito, proprio di rappresentare Trento nella sua vocazione verso l'incontro delle culture, ma in qualche modo di rappresentare questa vocazione accanto ad altre istituzioni, accanto a altri enti che hanno appunto questa specifica incarnazione nel territorio. Cioè non ci vogliamo sostituire nessuno, esiste a Trento una società trentina di studi storici da decenni e decenni che fa il suo compito, e il presidente professor Corsini è qui tra noi ed è membro anche della nostra giunta. Esistono altre istituzioni, esiste l'università da 10 anni. Occorre che tutti questi interventi siano in qualche modo tra loro complementari, e la nostra parte è proprio questa della questa funzione di servizio tra le due culture, almeno come è stata intesa all'inizio e come va finché, insomma, ecco, ci sono delle responsabilità in questo senso, sarà continuata. È un po', se è lecito paragonare le cose grandi e le piccole, un po' quel che si può dire della storia del Concilio di Trento, insomma, ecco. Trento è una città famosa per il Concilio, in realtà nessuno voleva venire a Trento all'età del Concilio, tutti si ribellavano, i prelati, in questa città montana, dal clima non molto favorevole, eccetera, eccetera. Però, anche se non era importante la città rispetto a tante città dell'impero, anche se non era comoda, la vocazione storica e geografica la rendevano il centro e l'hanno resa il centro dell'Europa per un grande momento, in ogni caso, della storia. Così si vuol dire appunto che noi vogliamo riprendere questa vocazione in piccolo, nell'ambito degli studiosi, in qualche modo, una vocazione appunto che è legata strettamente al territorio, ma con esso non si identifica. Così vorrei anche aggiungere, sempre commentando questo slogan della stazione di posta, che noi non vogliamo fare nessun tipo di storia comparata, cioè l'Istituto non ha mai voluto fare storia comparata nel senso tradizionale del termine, ma ricercare i problemi comuni che esistono e soprattutto mettere a confronto le storiografie viventi oggi nei nostri paesi. Quindi un richiamo così a un servizio alla storiografia attuale, ecco, non una ricerca di una comparatistica a tutti i costi magari, insomma, ecco, come in questi incontri internazionali troppo spesso probabilmente si tende a fare. Questo è il primo punto. Il secondo punto che vorrei sottolineare è questo, che ciò che ho detto non vuol dire che noi non abbiamo o che non cerchiamo di avere come istituto una nostra fisionomia. Cioè noi cerchiamo, e per merito in gran parte del comitato scientifico, poi elaborare appunto, il comitato scientifico è formato da metà professori italiani e metà professori tedeschi, ecco, non ricordo tutti i nomi ma li avete visti nei bandi per i seminari, nelle nostre pubblicazioni. Dico, ciò non vuol dire che non si cerchi di fare proposte culturali caratterizzate, soprattutto nel recupero di una storia, direi di una storia politica, nel senso pieno del termine. Chi segue le nostre pubblicazioni avrà visto questo sforzo, insomma, dico nel senso pieno del termine, appunto, per evitare appunto quelle che sono le superficialità di una storia politica fattuale, insomma, di cui conosciamo bene tutti i limiti. soprattutto direi ci siamo mossi nel senso della Verfassungsgeschichte, insomma, inteso nel senso più ampio tedesco, e non è appunto nemmeno senza significato che in Italia non esista una parola, insomma, ecco, che dia questa traduzione piena del termine, insomma, e in questo senso, con un'ampiezza che appunto va dalle istituzioni al disciplinamento sociale, tende ad accogliere tutta questa la cultura. Quindi in questo senso si tende a fare proposte direi appunto calibrate e mirate. E anche il tema che è alla base dei lavori di questa settimana è stato scelto, è stato deciso con molta consapevolezza in questo senso, e così ringraziamo fin d'ora i relatori, i due coordinatori, il professor Billowright e il professor Chittolini, che hanno accettato di organizzare, e tutti i relatori, e poi i ringraziamenti poi continueranno durante il corso della settimana. Ecco, ma proprio per questo il tema, infatti, è un tema proprio di grande attualità, insomma. È attuale perché, almeno nel mio pensiero, insomma, ecco, è legato proprio al problema della pluralità delle fonti del diritto, che diventa un problema nel nostro mondo di oggi crescente di anno in anno. Noi stiamo uscendo dallo schema del diritto di fonte statale, del monopolio della fonte statale del diritto, stiamo andando verso altri panorami, e in questo senso una meditazione appunto su questo fenomeno straordinario, insomma, ecco, degli statuti cittadini tra Medioevo e l'età moderna, anche rompendo proprio schemi cronologici che troppo spesso sono paralizzanti, insomma. Credo che appunto mai come in questo caso forse questa periodizzazione medioevo-età moderna non solo perde di significato, ma addirittura è veramente deformante, e credo che i lavori di questa settimana lo metteranno in luce, insomma. Studiare appunto questa crescita del diritto cittadino in relazione ai diritti, agli altri livelli del diritto, sino a quello imperiale, e ai diritti collaterali, ecco, credo sia una delle cose più importanti per riacquistare anche sul piano giuridico questa elasticità di pensiero anche nei confronti della realtà che ci circonda, anche nei confronti di tutti i discorsi sulle autonomie, per ritornare a un tema che è ancora legato particolarmente a questa terra. Stiamo vivendo appunto un mutamento radicale nell'uscita dal monopolio del diritto statale. E la riflessione è importante, credo, non per sapere dove andare, sappiamo, ma per abituarci a camminare in paesaggi nuovi. Terzo ed ultimo breve punto, questo lo diciamo poi sempre con molta insistenza, è un seminario, non un convegno. Siamo riusciti sempre a garantire questa qualifica, ecco, di seminario, nonostante le tentazioni di trasformarlo in convegno siano continue della realtà dei fatti, ecco, in convegno congresso. Ecco. Questo non vuol dire soltanto il numero chiuso, con possibilità naturalmente di partecipazione, invito per uditori, eccetera, ma con appunto relatori e borsisti, come e non sto a nominare, ma significa anche una un metodo di lavoro continuo. Nel pomeriggio ci trasferiremo nella sala più piccola, dove anche credo i tavoli e eccetera permetteranno una... È arrivato il presidente della regione Trentino-Alto Adige, a cui cederò la parola appena. Ecco, quindi ci trasferiremo nella sala accanto anche per questa... quello che è certo è che le relazioni in qualche modo sono una parte di un lavoro più ampio, nel senso che se tutto funziona non hanno soltanto il valore in se stesse, ma hanno anche una specie di valore di provocazione per le discussioni, per la partecipazione e l'intervento dei ricercatori più giovani, insomma. Oggi si faranno anche le presentazioni dopo nel pomeriggio, in modo tale che ciascuno parlerà brevissimamente, tutti i partecipanti saranno invitati a parlare per 2-3 minuti delle ricerche che stanno conducendo e quindi dell'interesse che hanno per i lavori del seminario, proprio per arrivare, insomma, ad una messa in comune, insomma, ecco, delle... dei reciproci interessi, insomma. Anche il problema della lingua va posto in questa funzione, ecco. Nel senso che ognuno parlerà la sua madrelingua, mediamente nella nostra esperienza, insomma, diciamo così, appunto i membri dell'altra i partecipanti dell'altra lingua sono in grado di capire anche se non sanno esprimersi compiutamente nell'altra lingua. Pregheremo poi alcuni di noi, dei partecipanti, anche tra i più giovani, che sono o bilingui o in qualche modo posseggono con sicurezza le varie lingue, di intervenire poi nei casi di... che sia utile un riassunto. I due coordinatori, appunto, troveranno aiuti, credo, molto buoni tra i partecipanti. Ecco, almeno di solito il problema della lingua si scioglie. Quello che bisogna stare attenti è sempre di non ridurre la discussione sulle relazioni tedesche a una discussione in tedesco, cioè fare uno sforzo di intreccio di interventi fra le due relazioni. Questo esige anche veramente un certo sforzo. Ecco, per ogni problema, per concludere, appunto, siamo a disposizione sia come membri della giunta esecutiva, il Monsignor Roger qui presente, il professor Schiera, il professor Corsini e io, il segretario dell'istituto, il professor Olmi, lì, ecco, per ogni... E la nostra, non so, animatrice universale è la signora Karin, che vedete là in fondo, ecco, e guardatela bene, perché questa settimana appunto ecco, che sarà su al secondo piano, poi per ogni evenienza, ma per tutti gli aspetti ovviamente organizzativi che ci sono. Un piccolo mutamento. Sono due piccoli mutamenti che toccano la giornata odierna e che purtroppo derivano da malattie sia del professor Dilker sia della moglie del professor Sbricoli, che mi ha mandato un telegramma stamattina. Allora, il programma continua stamattina con le due introduzioni, quindi abbiamo ampiamente la mattina. Ecco, nel pomeriggio ringrazio il professor Savelli, che ha accettato di anticipare la sua relazione, che giovedì mattina sarebbe stato un po' compresso, mentre oggi, così, per queste circostanze, può avere tutto lo spazio necessario. Allora pregherei il dottor Tarcisio Andreolli. sono qui nella mia duplice veste, oltre che di presidente della regione, anche di membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto Trentino di Cultura, e il presidente senatore Kessler mi ha pregato di rappresentarlo. Volevo prendere lo spunto da questa mia prima funzione, cui ho accennato prima, per dire pubblicamente il mio compiacimento e il conforto agli organizzatori, al comitato scientifico, al direttore, alla giunta esecutiva, perché al programma abbiamo visto che anche queste due settimane tengono alto il livello di questa istituzione e soprattutto rappresentano concretamente l'occasione per continuare in questo itinerario, questo istituto storico italo-germanico, il confronto tra le due culture, le due civiltà, i due popoli. E se ripenso agli anni in cui questa istituzione è nata e con quante sospetto difficoltà è nata qui a Trento, guardata dall'Alto Adige come un pericoloso intervento, e se penso alla sensibilità nuova che in Alto Adige è nata di fronte anche a questi problemi, a questi confronti, diciamo che molta acqua è passata sotto i ponti, ma sappiamo che l'acqua sotto i ponti non passa da sola, c'è qualcuno che la conduce, e credo che questa istituzione ha rappresentato nel tempo un contributo indiretto perché queste due comunità possano trovare nuovi metodi di confronto, di verifica tra loro. E da allora io auspico che il continuare questa iniziativa con costanza, con coraggio, possa dare anche frutti futuri diversi, e allora insperare. I primi segnali ci sono. Io sono impegnato a lavorare, seppur in silenzio, anche con questo obiettivo. Ho avuto già molti messaggi da Bolzano perché si possa trovare insieme qualche iniziativa diversa, perché anche Bolzano possa avere un ritorno diretto per queste iniziative che si svolgono in quest'area, che sì provinciale, ma che noi consideriamo sempre più regionale. È con queste considerazioni che esprimo ancora il più vivo augurio per il buon esito delle due iniziative e un particolare ringraziamento ai due coordinatori e ai relatori che si sono impegnati per questa prima settimana. Grazie. Allora comincerò io e poi seguirà il professor Filobait. Ecco, mi sono chiesto come dovesse essere impostata questa sorta di introduzione ai lavori e ho pensato che forse un metodo opportuno poteva essere quello di una ricognizione dei problemi che nel corso della settimana probabilmente emergeranno, quindi un discorso, temo, un po' generale, spero non generico. Il primo punto mi sembra questo da tenere presente, non per cadere in quel comparativismo appunto che Prodi giustamente secondo me deprecava, ma per avere un'idea delle caratteristiche e delle differenze di certi concetti e di certi fatti che compaiono nella storia italiana e nella storia tedesca. Vedere in sostanza che cosa si intende, per quali sono le caratteristiche originali, per così dire, dello statuto cittadino italiano. Ecco, lo statuto cittadino è un fatto generalmente europeo, XII, XIII secolo e seguenti, come momento di quella più generale ripresa del diritto in connessione alla ripresa della società, dell'economia e così via. Quindi fenomeno europeo. Però alcune, direi, particolarità italiane, dovute credo ad alcuni elementi: la precocità e il gran numero degli statuti. Un altro aspetto più significativo e di sostanza, direi, la forza politica e giuridica con cui lo statuto cittadino si pone di fronte a diritti precedenti e a diritti coesistenti. Terzo punto, l'ampiezza e la generalità del contenuto degli statuti cittadini italiani. Cioè, viene da pensare, ecco, lo dico come anticipazione del discorso, che quella funzione che alla città italiana si riconosce nella storia politica, no? Come elemento di coordinazione dal punto di vista politico e territoriale, elemento primario rispetto ad altre forze politiche, questa stessa funzione l'abbia esercitata dal punto di vista della storia del diritto attraverso appunto gli statuti cittadini. Mi ha colpito infatti un diverso modo di porsi della storiografia italiana e della storiografia europea di fronte al fatto appunto della origine e delle caratteristiche degli statuti nelle diverse aree, Italia da una parte, Germania, ma direi più generalmente Europa dall'altra parte. Ecco, per esempio, si mette abbastanza in luce nelle trattazioni di storia del diritto non italiano, non relative all'Italia, il permanere di una sorta di diritto non scritto, no? Consuetudinario, che vive nella società, no? Che non si crea, ma che i giudici trovano quando devono pronunciare dei giudizi. Questa sorta di ratio vivens, che anzi sfugge all'arbitrio del legislatore. Questo concetto di altes rect, no? Che si presta, credo, a delle mitizzazioni anche per la carica ideologica oggettiva, e credo che certe posizioni di Kern, di Fritz Kern, siano state riprese e ridimensionate, ma che tuttavia nelle trattazioni relative alla storia del diritto hanno un certo rilievo proprio come sfondo all'emergere di qualcosa di nuovo. Secondo punto, ma che cos'è questo qualcosa di nuovo? E qui compare un altro concetto che prende proprio rilievo rispetto al concetto di altes rect, quello di Gesetzgebung, cioè di, ecco appunto, è difficile tradurre forse con un termine preciso questo concetto che è così pregnante, mi sembra, nelle trattazioni di storia del diritto tedesche. Qui diceva Prodi, stazione di posta, bisogna cambiare i concetti oltre che i cavalli, forse comunque calibrarli meglio, no? Mi ha colpito il fatto che, per esempio, non c'è in Italia un genere storiografico di storia della Gesetzgebung, che invece è un genere, direi, molto studiato in Germania. E la pregnanza di questo concetto di Gesetzgebung proprio come momento di creazione di un diritto, momento forte di creazione di un diritto, il quale poi è indicatore di processi generali, no? Mi pare che la Vereinigung für Verfassungsgeschichte ha fatto un convegno proprio sulla Gesetzgebung come fattore della Staatsentwicklung, no? Ecco. Quindi un concetto che si apre ad altri sviluppi molto, molto forti, proprio come momento di una, come dire, bewusste Schöpfung, di contro a una unbewusste Entwicklung, quello del vecchio diritto, no? Perché ricordo queste cose note? Perché in Italia questo non c'è, nel senso che manca forse anche un termine preciso per tradurre Gesetzgebung. Per esempio il Gillissen, che cerca di tradurre, traduce potestas legislatoria, ma secondo me è un'altra cosa, come facultas statuendi, perché qui l'accento è messo non tanto sul processo di normazione, quanto sulla capacità o meno di emettere certe leggi. Quindi, ricapitolando, sfondo del vecchio diritto, emergere con forte pregnanza della Gesetzgebung e all'interno di questa legislazione statutaria, cioè intervento appunto della città. Seppure, e lo vedremo fra un attimo, mi sembra in una posizione subordinata. Ecco, questo, dicevo, non è per riproporre, non sarei in grado e non conosco gli sviluppi del dibattito, una pregnanza dello Altersrecht maggiore di quanto non abbia, no? Anche se mi ha colpito che ritorna un po' come, diciamo, idea quando uno si pone di fronte al problema di cosa sia il diritto nel Medioevo tedesco. Anche uno studioso, per esempio il Gurevich, no? Che è un antropologo culturale, ma hanno presente probabilmente questo suo libro, in cui il concetto di Medioevo, visto attraverso categorie antropologiche, è proprio in sostanza questo Altersrecht, o questo Dutes Altersrecht. Quindi non per mitizzare questo vecchio diritto, ma per notare che è una presenza che forse alla storiografia giuridica italiana sfugge relativamente all'Italia. E non è neanche per, diciamo, sottovalutare una constatazione che certamente gli storici del diritto in Italia fanno, cioè della importanza della consuetudine. Però mi sembra significativo questo, cioè la consuetudine c'è, no? A Pisa in tanti posti arriva a, diciamo, scrivere delle consuetudini ancora nel XV e nel XVI secolo. Però direi l'attenzione degli storici del diritto italiani è più nel momento, al momento in cui la consuetudine viene, come dire, annullata e assorbita all'interno di una legge data, dello statuto, che sostanzialmente la trasforma. Quindi la consuetudine è colta nel momento in cui viene assorbita in un altro diritto nuovo. Un altro aspetto, sempre per questa questione di concetti e termini, relativo agli stessi problemi, cioè alle prospettive lievemente diverse attraverso cui la storiografia in Italia e in Germania guarda questo fenomeno degli statuti. In Italia si usa spessissimo, di regola, direi, l'espressione statuti, no? Come espressione abbastanza generale, o legislazione statutaria. Perché il discorso sugli statuti coincide in larghissima misura col discorso sul diritto urbano, no? Sono termini che in larga misura si sovrappongono. Ecco, mentre non esiste in Italia un'espressione, mi pare, che abbia lo stesso significato pregnante che ha in tedesco la parola Stadtrecht, no? Proprio perché il concetto di Stadtrecht è, mi sembra, largamente assorbito in quello di legislazione statutaria. Non che non esista, ma se andiamo a vedere proprio empiricamente l'articolarsi delle trattazioni nei manuali di storia del diritto, no? Gli indici, le voci di enciclopedie, statuti sì, no? Diritto urbano è qualcosa che tutto sommato si comprende all'interno del discorso degli statuti. Ed è esattamente il contrario di quanto mi è sembrato avviene nella letteratura tedesca e non solo tedesca. Cioè, per esempio, non c'è un concetto unico e così pregnante, ma qui aspetto ovviamente le correzioni dei colleghi tedeschi, sono dei temerari tentativi che sto facendo, ma appunto in questo clima di seminario a cui Prodi alludeva volevo porre dei problemi su cui ovviamente aspetto correzioni e risposte. Ecco, io ho avuto l'impressione che ci sia una serie di termini per indicare appunto forme di diritto urbano, più di una, adesso le sentiremo in questi giorni, meno pregnante un unico concetto che alla legislazione statutaria si riferisca. Come mai questa differenza, se esiste? Ma direi proprio per questo, che mentre appunto in Italia il diritto urbano si identifica negli statuti in larga misura, ecco, in altre aree europee lo statuto è solo una componente di un diritto urbano che ha delle valenze molto più generali e soprattutto, questa è la differenza, mi sembra sostanziale, non nasce da autonoma capacità normativa della città. Il diritto urbano è anche la carta di franchigia concessa dall'esterno. Sono le ordonnance del re di Francia che vengono a costituire, cioè una serie di elementi estranei alla capacità normativa della città che costituiscono una gran parte di quello che è il diritto urbano e che invece costituiscono in Italia una parte molto più limitata del diritto urbano che si riassume in larga misura nello statuto. Sì, un'altra considerazione, ma abbrevio forse un po', è il minor peso che questo diritto urbano ha rispetto in Germania e in Europa rispetto al panorama dei diritti tardo-medievali. Prodi ricordava questa pluralità di diritti come caratteristica dei secoli medievali. Ecco, è un elemento che per il periodo maturo e tardo dell'età comunale forse si accentua di più fuori d'Italia che in Italia. In Italia, essendoci questa, come dire, forte presenza dello statuto, e questo in connessione al minor peso della città, no? nei rispettivi ordinamenti. Si parlava prima di Verfassungsgeschichte, ecco, sappiamo, appunto non è il caso di insistere, il minor peso che l'elemento urbano ha, no? nella Verfassungsgeschichte tedesca rispetto alla storia politico-costituzionale italiana. Ci sono quelle frasi famose di Otto Brunner in cui, per esempio, riconduce la città a qualcosa di comunque sottomesso, no? a una struttura che è a un ordinamento economico-politico che tutto sommato la città non riesce a perforare. No? La storia costituzionale della città fa parte del più ampio capitolo concernente la costituzione delle signorie del territorio. No? E lo stesso nella Verwaltungsgeschichte. In questa opera a cui alcuni dei presenti hanno collaborato, colpisce per un lettore italiano il fatto che dopo il discorso sull'amministrazione dell'impero, dopo il discorso sull'amministrazione dei territori, a pagine 688-698, 10 pagine, c'è Die Stellung der Städte, cioè 11 pagine in cui compare la città. Ovviamente in proporzione al peso che questi elementi hanno. E lo stesso, direi, sono elementi che si ritrovano di minor peso delle città nelle trattazioni di storia anche del diritto. Per esempio Wilhelm Ebel, nella sua storia della Gesetzgebung, no, dà notevole spazio alla Gesetzgebung del Reich, a quella dei territori, e poi aggiunge 2 pagine sulla Gesetzgebung delle città. E lo stesso anche, per esempio, Armin Wolf in questo manuale del Coing, no? Imposta allo stesso modo, diritto dell'impero, quando c'è, quindi in Italia e in Germania, diritto dei territori e poi in fondo diritto delle città. Applicando questo schema anche all'Italia, con qualche impressione di forzatura per il lettore nel momento in cui si constata che, per esempio, la legislazione del Parlamento friulano, no? o quel poco che si produce di legge in Piemonte precede nella trattazione il discorso sugli statuti cittadini, ma queste sono constatazioni. Ecco, si potrebbe continuare, vorrei 2 elementi soltanto ancora ricordare. Come mai questa minorità o minor peso del diritto urbano in altri paesi piuttosto che in Italia. Ecco, questo non so se è vero, ma mi sembra di averlo constatato in diverse trattazioni. La connotazione spesso privatistica e commerciale del diritto urbano in Germania, no? Il nesso che una storiografia da tempo stabilisce, e qui sarò, mi auguro, smentito clamorosamente anche dall'esposizione, fra ius mercatorum da un lato e diritto urbano. Per esempio il Planitz, che non è certamente una persona poco sensibile a elementi di vitalità e di autonomia anche politica delle città, comincia il discorso sul diritto urbano con il discorso sullo ius mercatorum. E lo stesso Pirenne, del resto, alla radice di tutto questo c'è Pirenne, nel 95 aveva fatto quel famoso articolo, e lo stesso Gillissen, questo storico, no, del centro Jean Baudin, che ha il merito di avere tentato in sostanza una definizione del diritto urbano in Europa. Ecco, in Italia probabilmente lo statuto cittadino, il diritto urbano cittadino come prodotto dallo statuto, ha un'ampiezza molto maggiore, o comunque ha un'apertura forse di carattere più generale. Lo so, notava per esempio il Van Kenegen, no? Che si dice il diritto romano compare tardi nel panorama europeo nel momento in cui ci sono delle forze statali e nazionali che ne fanno uno strumento di affermazione politica. E notava, non è vero, se c'è una diffusione forte e precoce del diritto romano, lo ritroviamo negli statuti urbani, no? Dunque il paradosso che il diritto degli statuti urbani serve per combattere contro gli imperatori che sarebbero, no, propugnatori e sostenitori di un diritto romano. Ma questo perché? Proprio per la tendenziale generalità a cui il diritto urbano statutario aspira. L'altro aspetto, in questa che sembra un'esposizione pubblicitaria del diritto urbano, ma è appunto per vedere quelli che sono gli elementi di differenza, e io mi rendo conto che sto, diciamo, unilateralmente sottolineando determinati aspetti, ma insomma per vedere quali possono essere le differenze. Ecco, un'altra caratteristica, e questa mi sembra abbastanza importante, è come dire, la capacità di radiazione nel territorio del diritto urbano. Anche qui veniva voglia di approfondire alcuni concetti che io, con termini, concetti che io purtroppo non ho molto chiari. Per esempio, nelle trattazioni tedesche di storia del diritto, ma anche in quelle francesi con altre terminologie, si ha il senso di un diritto urbano all'interno di un Landrecht, no? In connessione e nell'ambito di un Landrecht e di, come dire, un territorium, no? Che ha una forte pregnanza come termine giuridico-istituzionale, oltre che politico, no? Come luogo di un diritto. Ecco, questi termini, ancora una volta, non li troviamo in Italia, no? Non si parla, io non lo so adesso, poi ci sono dei giuristi, ma quale potrebbe essere l'equivalente di un Landrecht, se non, aggiungo e semplifico, appunto il diritto statutario cittadino, che è diventato diritto non solo nella città, ma di tutto un territorio intorno alla città, no? E quale potrebbe essere un equivalente di territorium come luogo di un diritto uniforme se non appunto il contado cittadino? Ovviamente territorium e contado non sono termini, come dire, perfetti, dal significato coincidente, questa non sono... Non c'è bilateralità di rapporti nel significato, però per certi aspetti direi che sono le traduzioni, possono essere le traduzioni l'uno dell'altro. Va bene, su questo punto mi sono fermato abbastanza ampiamente e, come dicevo, era appunto per vedere di notare se al di là di molti elementi comuni che la legislazione, che gli statuti hanno, in Italia e in Germania non ci siano alcuni particolari elementi che debbono essere tenuti presenti nel momento di una lettura parallela di questi fenomeni. Il secondo punto su cui volevo fermarmi è quello rappresentato dalla svolta costituita in Italia dal 300 e dal 400, che è una svolta molto più forte che in Germania, perché se si può dire, credo che in tutti e due i paesi assistiamo a un rafforzamento degli stati territoriali, in Italia il passaggio è molto più traumatico, perché questo rafforzamento di stati territoriali comporta la scomparsa dei liberi comuni cittadini che avevano avuto in precedenza, diciamo, prerogative e caratteristiche statali. Quindi legislazione delle città che sono diventate suddite e nuova legislazione del principe o della città dominante. E qui in effetti credo che molte relazioni interverranno proprio su questi soffermo a lungo, noterei soltanto che da un lato si crea oggettivamente una situazione di tensione, no? Fra lo statuto della città e lo statuto, chiamiamolo, dello Stato, diciamo del principe o della dominante. Per esempio Venezia, no? Che funziona, che agisce come principe rispetto alla terraferma. Contrasti di principio anche clamorosi. Quando arrivano i francesi in Italia conquistando il Ducato di Milano alla fine del 400, i professori dell'Università di Pavia chiedono al re di Francia di cancellare tutta la legislazione visconteo-sforzesca, no? Restaurando la piena validità degli statuti. È una posizione chiaramente insostenibile, cioè non si poteva così, però è significativo di un'idea che tutto sommato l'orizzonte giuridico della società lombarda può essere ritrovato nella vecchia legislazione cittadina, che in effetti aveva mantenuto ampi ambiti di validità. E poi ci sono questioni specifiche, per esempio sempre in Lombardia, i comuni cittadini protestano energicamente quando il giusdicente mandato dal principe non ha il titolo di podestà, che è una vecchia carica dell'ordinamento cittadino, ma ha il nuovo titolo di commissario, no? Questa parola piena di significati. Nella fattispecie perché protestano? Perché il commissario può derogare agli statuti cittadini. Automaticamente si regola secondo la legislazione principesca, non è vincolato dagli statuti cittadini, no? Mentre il podestà, entrando in carica, deve giurare di rispettare gli statuti cittadini. E ci sono altre questioni, per esempio la tortura, no? È una delle questioni in cui il contrasto fra statuti locali e legislazione principesca appare più forte. In complesso cosa si può dire per la Lombardia? Magari su questo mi riservo di intervenire in un'altra occasione, ma c'è anche qualche contributo recente, soprattutto uno del professor Massetto in un recente convegno su Milano e la Borgogna, che mi sembra fa il punto su questa situazione e che conclude, a me pare, con una constatazione di una forte presenza appunto degli statuti cittadini, non perché siano sopra la legislazione del principe, ma perché la legislazione del principe è da un lato più marginale, una sorta di quadro, no? Che lascia ampi spazi all'interno per una efficace presenza della vecchia normazione municipale. Ecco, qualcosa di questo genere si potrebbe notare anche per i secoli XVI e forse XVII. E si potrebbe qui vedere un po' in dettaglio il problema della cosiddetta gerarchia o graduazione delle fonti del diritto, no? In cui in ogni caso prevale la legislazione del principe, ma sempre con questo carattere, in sostanza, di affermazione generalissima che poi per una infinita serie di casi pratici non ha delle norme specifiche, onde è automatico l'uso di altre fonti del diritto. Allora, dopo la legislazione del principe, quali sono le fonti del diritto? E qui direi c'è una sostanziale concordia sullo statuto, in sostanza, come legge, come testo a cui il giusdicente immediatamente ricorre. Ci sono delle posizioni differenziate, anche qui c'è per la Lombardia un articolo recente della professoressa Villata di Renzo che ha esaminato proprio la dottrina lombarda in relazione alla gerarchia delle fonti del diritto dal 500 al 700. E le posizioni sono molto varie, ma ecco, ci sono delle affermazioni a me sembra significative. Per esempio Calvino, un giurista tortonese, non ha niente a che fare con... lo statuto dicitur ius municipale, sed est tante potentie in civitate sua, quanta ipsa lex communis in universo. No? In civitate sua lo statuto ha questa. E si arriva semmai alla definizione di uno ius commune particolare, no? In relazione allo statuto e alle leggi locali, per distinguerlo da un carattere, da un diciamo, ius commune più generale. Del resto è una tradizione, ma adesso poi ci sono esperti qui, insomma, da Baldo a Giason del Maino, insomma, mi pare che sia continua l'idea che il diritto comune è complementare tutto sommato a una legislazione statutaria locale, no? Statutum est pars iuris communis, questa è una cosa che direi tutta la dottrina, Giasone, Decio, ma ancora Baldo mi sembra, no? E, però con un'accettuazione che nella pratica ha un forte rilievo. Ecco, una cosa vorrei notare su questo terzo punto e poi chiudo. Che si è parlato per questi secoli, 600-700, di regionalizzazione del diritto, no? Cavanna, no? È l'espressione che ha usato, senza pensare alle vecchie, più vecchie trattazioni ancora del professor Ermini, quando ha sottolineato, esaminando il De Luca, il fatto che a un certo punto la legislazione locale appunto diventa ius commune, no? Legislazione locale quale? A Ermini interessava mettere in luce la legislazione locale principesca, no? C'è il suo commento alla dissertazione 35esima del De Iudicis del De Luca, in cui, prendendo un pezzo secondo me molto bello del De Luca e noto peraltro, fa presente come proprio dice, ma questo diritto dei principi, no? O delle dominanti, che i pratici ignoranti del nostro tempo considerano ius municipale, ius diritto locale, particolare, in realtà è un diritto comune e imperiale nel momento in cui il principe ha accettato di farlo valere nel proprio territorio. E dice ancora Ermini, e De Luca distingue fra questo diritto nobile delle città dominanti e dei principati rispetto al diritto delle città sottomesse, no? Ecco, qui bisognerebbe leggere il testo del De Luca, ma ecco, andando avanti nel paragrafo successivo c'è un lungo periodo, 38 righe con tutte le abbreviazioni, 5 frasi, 12 subordinate in questo latino stupendo, ma insomma difficile, che quindi non sono sicuro in sostanza di avere inteso bene, ma che però mi sembra dice un'altra cosa, cioè si chiede però quali sono le città soggette, no? Perché un conto è se c'è una città che ha una dominazio economica su un territorio, e lì probabilmente lui ha in mente le città dello Stato della Chiesa con i loro piccoli contadi costituiti da villaggi e da castelli, no? Ma altro conto è se la dominazio è di una città che in precedenza è stata libero comune cittadino. Allora, se è così, il fatto che ora sia in soggezione non significa che la vecchia legislazione abbia perso di efficacia. Quindi, in sostanza, se non ho inteso male, De Luca non si limita ad affermare il carattere generale del diritto principesco, ma afferma il carattere generale di diritto comune imperiale, come dice lui, anche della legislazione delle città, che magari oggi sono sottomesse, ma che un tempo erano libere. Ma allora voi capite cosa significa questo? In una situazione come quella italiana significa non soltanto un'affermazione di una nuova statualità, ma una rivalutazione generale di tutta la vecchia normativa municipale, no? Di tutta la tradizione statutaria municipale. E questo è un tema, ma appunto aspetto gli esperti, che mi sembra circoli nella letteratura di questo periodo, no? Perché anche il Sabelli, questo compendio, insomma, che però ha il merito appunto di compendiare, ho visto che sotto la voce statuti ha tutta una parte amplissima proprio su questo aspetto, cioè quale città si deve ritenere suddita, no? E distingue tutta una serie di possibilità, perché si può essere sudditi per confederazionem, per recomendazionem, e in questo caso la città non c'è dubbio che non ha perso sovranità. Si può essere sudditi anche però per captivitatem, e qui è più rischioso, però se il principe, no, non ha ritenuto di abrogare esplicitamente le leggi della città suddita, quelle leggi valgono. E fa il caso solito, adesso sentiremo, di Pisa, no, su cui c'era stato già con Decio e con Pontano questo dibattito quattrocentesco. In sostanza, le città che hanno perso la loro dignità di centro attivo di legislazione sono pochissime, perché bene o male non c'è quasi nessuna che si sia così annullata nella subordinazione a un nuovo Stato regionale da perdere il prestigio della sua tradizione statutaria. C'è anche un giurista pavese, Flavio Torti, molto interessante, che ha delle pagine su questo, tanto più giustificate perché il Torti, che è un professore pavese, quindi notoriamente ostile come sempre i professori pavesi ai colleghi milanesi, sostiene che il diritto di Milano non ha nessuna efficacia a Pavia, no? Perché non solo perché appunto Pavia è più antica e più importante come tradizione giuridica di Milano. Quindi lui dice, quando a Milano viene quando a Pavia manca qualcosa sugli statuti, non andiamo a vedere Milano, per carità, ma andiamo a vedere, allora gli va bene tutto, insomma, anche l'ius comune più volgare. Ma però il discorso del Torri è interessante, lo citavo per questo, perché è tanto più plausibile in quanto nel caso di Milano non si tratta di una legislazione principesca, no? Ma di una legislazione statutaria. Cioè Milano è una città capitale, ma non dominante, per Ecco, e su questo si potrebbe continuare, finisco solo con due riferimenti alla cultura giuridica del pieno Settecento, cioè a due persone quasi contemporanee, Scipione Maffei, da un lato, ne parlerà credo Varanini, e il Verri a Milano, Gabriele Verri ovviamente, i quali tutte e due negli stessi anni sostengono la necessità di restaurare un insegnamento di diritto municipale, no? E a Milano ci riescono, non a Pavia, al solito, ma alle scuole palatine di Milano nasce nel 1953 una cattedra di diritto, si chiama diritto municipale e provinciale, voluta e sostenuta dal Verri, no? E poi del Verri sono note le posizioni e quindi non mi fermo. In sostanza, sia nella dottrina ma anche nella pratica, di questo non faccio in tempo a parlare, c'è questa forte presenza che io ignoravo, insomma, e mi ha colpito perché credo che non resti appunto solo sul piano di una disquisizione giuridica astratta, ma ha una forte pregnanza anche ideologica, no? Questo senso dell'autonomia della città nel corpo dello Stato e probabilmente degli effetti pratici di uso nelle corti di giustizia, che peraltro andrebbero verificati, anche se qualche saggio c'è, quel libro di Massetto per esempio sul Claro a Cremona, no? E altre cose del genere. Ecco. Credo che non parlerò dell'ultimo punto perché sto superando i limiti, in cui in sostanza il discorso si sarebbe spostato a un altro problema, perché sappiamo tutti lo statuto è una fonte del diritto, ma ci sono altre fonti del diritto, no? E queste fonti del diritto sono anche i giudici e i giuristi, no? Anzi, c'è questo libro recente del Van Kenegen, che a me è sembrato molto interessante, questo profilo della storia giuridica europea, in cui distingue proprio così, in uno sguardo comparativo del diritto europeo, i paesi in cui nella produzione del diritto ha prevalso volta a volta la legislazione, anche se Gesetzgebung, diciamo, oppure il giurista in quanto giudice, no? Oppure il giurista in quanto professore, no? E in effetti, se uno guarda l'Italia, l'Inghilterra, la Germania, eccetera, vede, come dire, un dislocarsi diverso di queste forze produttrici del diritto in relazione, questo è un discorso molto aperto, a ordinamenti diversi nelle varie regioni. Ecco, la cosa che mi pare ancora in questa celebrazione dello Statuto cittadino mi premeva un po' di sottolineare era la forte connotazione urbana di alcuni istituti e soprattutto il Collegio dei Dottori Cittadini, che in questo processo di produzione del diritto, non attraverso una normativa ma appunto nella applicazione dello statuto, nella interpretazione, ecco, la grande diciamo carica ancora urbana che questi giuristi, dottori di collegio, portano almeno fino al XVI secolo, no? Almeno fino al XVI secolo. Ma è un discorso che appunto non mi sento di infliggervi e vi ringrazio dell'attenzione che avete messo. Molto grazie. Facciamo una pausa di 10 minuti. Darf nunmehr den Vormittag fortsetzen. Und Ihnen zunächst die Grüße von Herrn Kollegen Gerhard Dilcher überbringen, der leider plötzlich erkrankt ist und nicht hierher kommen konnte. Aber Herr Dilcher hat mir ein Manuskript geschickt, das er heute Vormittag hier als Einführungsvortrag vortragen wollte, und ich werde mir nun zunächst gestatten, dieses Manuskript vorzulesen und im Anschluss daran meine eigenen einführenden Bemerkungen, die ich dann aber möglichst knapp halten werde, anzuschließen. Wir können dann daran anschließend vielleicht eine Gesamtdiskussion beginnen unter Einschluss des Referates von Herrn Kollegen Chetolini, das sich mit dem, was wir jetzt hören werden, in erfreulicher Weise berührt und zum Teil überschneidet. Und die unterschiedliche Perspektive der deutschen und der italienischen Forschung, glaube ich, wird doch recht deutlich werden. Der Text von Herrn Dilcher trägt die Überschrift Landrecht, Stadtrecht, territoriales Recht, Thesen zur Stadtrechtstagung in Trient, September 1989. Erstens die Forschungslage. Ist das gut so? Die Forschungslage. In der deutschen wie in der italienischen Forschung ist die Forschungslage stark von den methodischen Ansätzen der historischen Schule bestimmt. In der deutschen Forschung dienen Quellen der alten stammesrechtlichen Leges von Dorf-, Land- und Stadtrechten der Konstruktion eines Systems des deutschen Privatrechts. Das Stadtrecht kann hier nur unvollkommen in seiner Eigenständigkeit hervortreten. In Italien verfolgt die Forschung das Weiterleben von römischen und die Entfaltung des langobardischen Rechts, sodann die Entwicklung des gelehrten Jus commune im Gegensatz zum Jus proprium. Auch hierbei tritt der Vorrang und die Bedeutung des städtischen Statutarrechts nicht angemessen in Erscheinung. Die Bedeutung der Stadtentwicklung für die Ausbildung des europäischen, rational-legalistischen Rechtsverständnisses, wie sie schon Max Weber gezeichnet hat, kann auf diese Weise nicht erklärt werden. Nun bisherige Erklärungsansätze. Für Deutschland gibt es für das Verhältnis Landrecht-Stadtrecht folgende Erklärungsansätze. Erstens, das Stadtrecht ist das den wirtschaftlichen Verhältnissen entsprechend fortentwickelte Landrecht, so Richard Schröder. Zweitens, das Stadtrecht entwickelt sich vor allem aus dem kaufmännischen Gewohnheitsrecht, dem Jus Mercatorum, Hans Planitz. Und drittens, das Stadtrecht ist ein Recht mit eigenem Charakter, gebildet aus Gewohnheit und Willkür, das heißt Einung Statutum, gekennzeichnet durch Rationalität, Mobilität und Ausrichtung auf das Ökonomische. Wilhelm Ebel. Dieser Ansatz ist fortentwickelt in meinem Vortrag auf dem Bielefelder Rechtshistorikertag. Er erscheint demnächst in der Savigny-Zeitschrift Germanistische Abteilung und in der Nuova Rivista Storica. Drittens die Entstehung des deutschen Stadtrechts. Thesenartig lässt sich heute sagen, im 12. Jahrhundert entwickelt sich in Deutschland ein Stadtrecht, das sich in inhaltlichen Normen, Charakter und Entwicklungsstand deutlich von dem noch nicht aufgezeichneten Landrecht abhebt. In der Form kann es sowohl in ein Privileg, in die Aufzeichnung eines städtischen Statuts, wie in eine Rechtsmitteilung an eine andere Stadt, wie in eine vertragsartige Vereinbarung gefasst werden. Zur Aufzeichnung gelangen vor allem Rechtssätze, die sich vom Landrecht unterscheiden. Viertens, Übergang von der Oralität zur Schriftlichkeit. Das Stadtrecht vollzieht auf diese Weise im deutschen Rechtsbereich als erstes den Schritt von der vorherrschenden Oralität der Rechtstradition zur Schriftlichkeit aufgezeichneter Normen. Die ländliche Rechtsordnung kennt seit der Aufzeichnung der stammesrechtlichen Legis einen solchen Normcharakter nicht, sondern regelt Konflikte durch kollektiven Rückgriff auf die eigene traditionale Seinsordnung. So etwa Hermann Krause, Secundum antiquam consuetudinem, more majorum, more solito. Fünftens, die Verschriftlichung des Landrechts. Der Sachsenspiegel. Man könnte versuchen, durch Hinweis auf den Sachsenspiegel diese These zu widerlegen. Er ist die klassische Quelle schriftlich aufgezeichneten deutschen nicht-stadtrechtlichen Rechts, Landrecht und Lehnrecht, und wirkt seinerseits auf die Stadtrechte Norddeutschlands wie Mittel- und Ostdeutschlands zurück. Doch steht der Sachsenspiegel zeitlich im Kontext schon voll entwickelten und aufgezeichneten Stadtrechts. Er enthält nur bedingt Rechtsregeln abstrakt normativen Charakters wie die Stadtrechte. Nachdem schon früher Einflüsse der kirchlichen Bildung auf Eike von Repgow festgestellt worden sind, Guido Kisch, werden nun auch Beziehungen zu stadtbürgerlichen Kreisen festgestellt, Lieberwirth Johannig. Außerdem wird der Sachsenspiegel heute in der europäischen Welle von Rechtsaufzeichnungen nach dem Investiturstreit gesehen, Sten Garnier. Das Landrecht des Sachsenspiegels kann also nicht als Untergrund der stadtrechtlichen Entwicklung im Sinne Richard Schröders angesehen werden. Sechstens, die neue Ebene, Schriftlichkeit und Normstruktur. Mit dem Vorliegen einer breiten Schicht von Stadtrechten und des Land- und Lehnsrechts des Sachsenspiegels ist im 13. Jahrhundert eine neue Ebene der Rechtsentwicklung in Deutschland erreicht. Hof- und Dienstrechte wie ländliches Siedlungsrecht haben hierfür nur eine sekundäre Bedeutung. Diese Aussage gilt parallel für die anderen europäischen Rechtslandschaften nördlich der Alpen. Die Stadtrechte steuern hierzu die moderne Normstruktur bei, der Sachsenspiegel den Versuch einer umfassenden Aufzeichnung des gesamten Rechts. Der Hintergrund des Kirchenrechts und des römischen Rechts für diese Entwicklung ist schwer zu ermitteln, wird aber bei der Rekonstruktion des historischen Vorgangs stärker zu berücksichtigen sein. Siebtens, Durchdringung und Verbindung von Land- und Stadtrecht. Auf dieser im Laufe des 13. Jahrhunderts erreichten Ebene können sich Landrecht und Stadtrecht verbinden und durchdringen. Diese Erscheinung findet sich vor allem im großen und kleinen Kaiserrecht, Schwabenspiegel und Frankenspiegel, in der Verwendung von Sachsenspiegel, Schwabenspiegel und anderen in Stadtrechten, aber auch in den Versuchen, umfassende spiegelartige Aufzeichnungen von Stadtrechten herzustellen. Weniger der juristische Ursprung als Land- oder Stadtrecht, als vielmehr die Anforderungen der jeweiligen Lebensverhältnisse bestimmen jetzt die inhaltlichen Rechtsnormen dieser Aufzeichnungen. Dabei spielt der Unterschied ländlicher und städtischer Wirtschaftsverhältnisse noch durchaus eine Rolle. Die Ausbreitung von Austausch und Handel, Ausbreitung der Ware-Geld-Beziehung, von den städtischen Marktzentren auf das Land, führt aber zur Ausbreitung des Handelskaufs und ähnlicher Rechtsinstitute, ursprünglich markt- und stadtrechtlicher Art, auf das Land und macht die entsprechenden Rechtsregeln zu Bestandteilen des Landrechts. Achtens, die Gesetzgebung der Territorien. Die Gesetzgebung der deutschen Landesherren seit dem 13. Jahrhundert ist auf dieser Ebene der inneren Rechtsentwicklung zu verstehen. Die deutschen Landesherren verwenden die entwickelten Elemente von Stadt- und Landrecht, um zu einer Vereinheitlichung des Rechts ihrer Territorien im Sinne einer den Verhältnissen angemessenen Ordnung und im Interesse ihrer Staatsbildung zu gelangen. Sie sehen sich aber dennoch gezwungen, die unterschiedlichen Verhältnisse von Stadt und Land, wie auch der Städte unter sich, zu respektieren. Neuntens, das Stadtrecht als Vermittler von archaischem Germanischem zum gelehrten Recht. Vor allem durch die städtische Entwicklung im 12. Jahrhundert ist also eine grundlegende qualitative Veränderung des Rechts der Rechtslandschaften nördlich der Alpen hervorgerufen worden, die auch das bis dahin archaische Stammes- und Landrecht verwandelt. Die neue Qualität des Rechts wird dann in der Territorialgesetzgebung aufgenommen und als Instrument der Rechtsvereinheitlichung und Staatsbildung eingesetzt. Die so in Stadt und Land erreichte qualitative Stufe der Rechtsentwicklung ermöglicht erst die Übernahme des gelehrten Rechts nördlich der Alpen, Rezeption, da nunmehr kein qualitativer Sprung von einer archaischen zu einer rationalen Rechtsordnung mehr zu vollziehen ist. Zehntens, die Rolle des mitteleuropäischen Stadtrechts in der europäischen Rechtsentwicklung. Die Ausbildung des Stadtrechts hat sich damit als eine Stufe der mitteleuropäischen Rechtsentwicklung erwiesen, die für die Ausbildung eines europäischen Jus commune und damit der eigentümlichen Legalität der europäischen Kultur unentbehrlich erscheint. In dieser Sicht stellt sich die Frage nach dem Verhältnis von Landrecht und Stadtrecht neu. Das wirft zahlreiche noch ungeklärte Forschungsprobleme auf. Dazu gehört auch die Vergleichung und die Herausarbeitung der Unterschiede in der Rechtsentwicklung zwischen den Gebieten südlich und nördlich der Alpen, insbesondere im Hinblick darauf, welche Rolle die im 12. Jahrhundert in beiden Teilen Europas entstehende kommunal-urbane Lebensform für die Geschichte der Ausbildung der europäischen Rechtskultur bedeutet. Soweit also der Text von Gerhard Dilcher. Ich glaube, es wird am besten sein, wenn ich jetzt meine eigenen Vorbemerkungen anschließe, denn sie schließen von ihrer Konzeption her auch zeitlich an diese Überlegungen von Herrn Dilcher an. Ich habe bei meinen Vorüberlegungen zu dieser Tagung eher das ausgehende Mittelalter und auch die frühe Neuzeit im Blick gehabt, kann jedoch von dieser Position zunächst einmal, bei dieser Position zunächst einmal ansetzen. Erstens, ausgehend von der weithin akzeptierten und hier von Gerhard Dilcher auch schon auf dem letzten Rechtshistorikertag weitergeführten These, dass die Stadt als der relativ modernste Typus einer sozialen Organisation und rechtlichen Binnenordnung anzusehen ist, stellt sich die Frage nach dem Verhältnis von städtischer und staatlicher Rechtsordnung, und zwar ganz grundsätzlich als ein prinzipielles Problem der europäischen Rechts- und Staatsentwicklung. Ich darf hier vielleicht einblenden, dass die Eindrücke, die wir in Deutschland von der italienischen Entwicklung haben, sich von unseren Forschungen, auf die Herr Chitulini so ausführlich eingegangen ist, doch weitgehend und grundlegend unterscheiden. Ich darf erinnern an jenes Buch, das für Deutsche noch immer einen wichtigen Einstieg in die italienische spätmittelalterliche Geschichte bildet, nämlich Jakob Burckhardt, Die Kultur der Renaissance in Italien, ein Klassiker, in dem man lesen kann, mit welcher Freiheit sich die italienischen Stadtstaaten seit dem Ende der Stauferzeit entwickelt haben und entwickeln konnten. Das ist ein Sachverhalt, der in unserer Forschung eigentlich nicht genügend beachtet worden ist und schon gar nicht weiter reflektiert worden ist. Denn nördlich der Alpen blieb eben das ganze alte Lehenssystem intakt, das in Italien offenkundig zusammengebrochen ist nach dem Untergang der staufischen Dynastie. Und das schuf Freiräume, die nördlich der Alpen eigentlich unvorstellbar sind. Man muss bei der Lektüre von Jakob Burckhardt Abstriche machen im Hinblick auf seine moralisierende Tendenz. Er erregt sich über die Schlechtigkeit mancher Tyrannen in einzelnen italienischen Städten und lobt andere. Das ist natürlich nicht mehr der Standard unserer Forschung und unserer Methoden, aber wenn man diese Abstriche macht, ist noch genügend so interessante Substanz und Nachdenkenswertes enthalten, was eigentlich unsere Forschung anregen sollte. Nun, um diese Frage nach dem Verhältnis von städtischer und staatlicher Rechtsordnung im Einzelnen in Deutschland verfolgen zu können, muss man zunächst einige historische und begriffliche Vorklärungen vornehmen, die auch für den gesamten Zuhörerkreis, der ja nun auch international zusammen ist, gesetzt ist, mir wichtig erscheinen. Zunächst einmal, das wäre der zweite Punkt, müssen wir in Deutschland wohl ganz anders als in Italien ja grundlegend unterscheiden zwischen den königlichen Städten und den Städten des Adels. Das kann man sicher schon für das 13. Jahrhundert tun, vielleicht schon für frühere Zeiten. Für das 13. Jahrhundert, aus dem wir eine Steuerliste der Reichsstädte haben, muss man das sicher tun. Nur die königlichen Städte sind dem Reiche steuerpflichtig. Im 15. Jahrhundert, als dann unter der Bedrohung der Türken die ersten Reichsmatrikeln aufgestellt werden, ist die Unterscheidung von Reichsstadt und landsässiger Stadt allgemein anerkannt, wenn auch in einzelnen Fällen noch lange darüber gestritten wurde, ob eine Stadt landsässig oder reichsständisch ist. Das Problem, wie sich städtische Statuten zur staatlichen Obrigkeit und Gesetzgebung verhalten, stellt sich im strengen Sinne des Wortes nur für die landsässigen Städte, denn es gibt keine allgemeine kaiserliche Gesetzgebung für Reichsstädte. Die Reichsstädte entwickeln insofern ein relativ freies, jedoch unter kaiserlicher Aufsicht stehendes Gesetzgebungsrecht, das sich allerdings weitgehend im Rahmen des Herkommens des alten Rechts bewegt. Ich werde auf den Punkt noch einmal zurückkommen. Drittens, hinsichtlich der rechtlichen Qualität der städtischen Statuten ist für Deutschland im Anschluss an Wilhelm Ebel, ich wiederhole hier kurz einen wichtigen Punkt, den auch Gerhard Dilcher in seinem Manuskript hatte, ist für Deutschland im Anschluss an Wilhelm Ebel zu unterscheiden zwischen dem auf dem Herkommen beruhenden Recht einerseits und der aus Willkür und Einung hervorgegangenen Satzung andererseits. Das Recht verkörpert die Beständigkeit jener Rechtsbeziehungen, die in die Generationenfolge eingebettet sind und die mit Eigen und Erbe zu tun haben. Dieses Recht kann allenfalls gebessert, es kann nicht beliebig ausgewechselt werden. Wohl deshalb, weil damit die Grundlagen der Sozialverfassung überhaupt in Frage gestellt würden. Die Satzungen dagegen bilden städtische Sonderrechtsordnungen von hoher Effektivität, da sie die jeweilige städtische Situation berücksichtigen und durch einen Eid, den der Bürger auf diese Satzungen zu leisten hat, zu einer unmittelbaren rechtlichen Bindung jeder Person führen. Insofern scheint ein wesentlicher Unterschied zu den italienischen Verhältnissen zu stehen. Wir sind in Deutschland nicht gewohnt, von einem einheitlichen statutarischen Recht zu sprechen. Und das scheint mir nach unserem heutigen Forschungsstand auch nicht möglich zu sein. Nun, diese Unterscheidung von Recht und Satzung ist aber nach meiner Überzeugung noch in anderer Beziehung von Bedeutung. Die Rechtsbesserung betrifft vor allem die Gerichtspraxis. Gesetzgebungsakte im Bereich des Rechts wenden sich typischerweise eher an den Richter als an den Stadtbürger. Die Satzungen dagegen sind so geartet, dass sie Gehorsam fordern, Gehorsam von jedermann, nicht umsonst müssen sie beschworen werden. Sie verstehen sich als Ordnungen, sie heißen bald auch ausdrücklich Ordnungen. Das Wort Ordnung, wohl aus dem französischen Ordonnantie hinüberkommend vom Westeuropa, ist ein Zentralbegriff des 15. und 16. Jahrhunderts, ein politischer Leitbegriff, möchte ich sagen. Sie heißen auch bald Ordnung und sie sind inhaltlich wohl als Verhaltensnormen zu interpretieren. Normen für das Leben in der Stadt, für das Wirtschaften vor allem, aber auch für das, wir würden heute sagen, Freizeitverhalten, also für das Feiern. Und dahin gehören alle diese polizeilichen Materien, die wir aus den Landes- und Polizeiordnungen, aber eben vorher aus vielen städtischen Ordnungen kennen. Nun viertens, wie verhält sich nun das städtische zum territorialstaatlichen Gesetzgebungsrecht in den Territorien? Da wäre Folgendes zu sagen, solange der Territorialstaat in das überkommene Recht nur begrenzt eingreift, also in das alte Recht nur begrenzt eingreift, versteht es sich von selbst, dass auch die städtischen Rechtsgewohnheiten unangetastet bleiben und dass die Städte ihr Recht auch im Wege der Gesetzgebung weiterentwickeln können. Diesen Zustand kann man sicher weitgehend für das 15. und 16. Jahrhundert annehmen. Es gibt erst einzelne Gesetzgebungsakte, die in die alten Materien des Rechts eingreifen. Das gilt ja selbst für Landrechte. Herr Schlosser, der unter uns ist, kann da über das bayerische Landrecht von 1346 da viel genauer Auskunft geben, wie ich, wie vorsichtig dieses Recht angepasst war an das gewohnte Recht, an das alte Recht im Lande. Komplizierter liegen die Dinge im Bereich der Ordnungen, also der Satzungen, Ordnungen, der Verhaltensnormen, wie ich sagen möchte. Die typischen Normen polizeilichen Inhalts werden sehr früh gerade in der Stadt entwickelt, und zwar wohl deshalb, weil diese Normen wohl etwas zu tun haben mit sozialer Verdichtung. Also vielleicht mit der Banalität, dass Menschen auf einem engen Raum zusammenleben und eine Fülle von Regelungsproblemen aufwerfen, die einfach gelöst werden müssen. Hier ist es nun so, dass etwa seit der Mitte des 15. Jahrhunderts die Territorialherren selbst solche Ordnungen erlassen, sodass wir zwei Schichten haben. Wir haben einen Komplex städtischer polizeilicher Vorschriften, polizeilicher Normen und darüber landesherrliche Normen. Wie sich diese beiden Materien zueinander verhalten, inwieweit sie voneinander abweichen, inwieweit sie übereinstimmen, inwieweit das territoriale Polizeirecht das städtische beseitigt, derogiert, dies sind Fragen, die ich nicht beantworten kann, aber über die wir bestimmt auch im Laufe der Tagung noch einiges hören werden. Das heißt, die Ausbildung des Territorialstaates in Deutschland geht einher mit der Ausbildung eines übergreifenden Ordnungswillens, das sich über die städtische Polizei, also überlagert, sich über der städtischen, dem städtischen Polizeiwesen erhebt und dieses möglicherweise beeinflusst. Man mag etwa denken an Konfession, Handel, Zölle und Ähnliches. Nun ein Blick, dritter Punkt, ein Blick in die juristische Literatur noch des 17. und 18. Jahrhunderts fördert über das Verhältnis von Stadtrecht und Territorialitäten entstanden sind, auffallenderweise, die sich speziell mit dieser Frage befassen, in welchem Umfang können und dürfen landsässige Städte, also Territorialstädte, Recht setzen. Also haben sie ein Statutarrecht. Das wird zunächst einmal allgemein bejaht, wobei natürlich die allgemeinen Grenzen der Gesetzgebung, Naturrecht und Gemeinwohl, Wohnung, Kommune und Ähnliches natürlich zu beachten sind. Es wird bejaht und dann wird in einigen dieser Arbeiten das Verhältnis zur territorialen Gesetzgebung erörtert. Und zwar in folgender Weise: dass eine landsässige Stadt, eine Territorialstadt, ein ganz freies, echtes Gesetzgebungsrecht hat, das als Ausfluss der Landesobrigkeit gesehen wird, der Superioritas Territorialis, wird als Ausnahme aufgefasst. Aber das Recht, Statuten zu setzen, haben sehr viele Städte, wird dort gesagt. Und dies natürlich kraft Duldung durch den Landesherrn, Sie haben dieses Recht, Statuten zu setzen, selbst als ein Gewohnheitsrecht. Also das Recht, Statuten zu setzen, ist selbst ein altes Recht, das der Fürst zu beachten hat, wenn ein solches altes Recht erworben wurde. Das klingt für unsere Ohren zunächst einmal logisch, ist aber insofern seltsam, als man sich dann fragt, wozu berechtigt denn ein solches Statutarrecht, wenn es auf Gewohnheit beruht? Und in der Tat heißt es dann auch logischerweise, dieses Recht Statuten zu setzen, ist natürlich das Recht, altes Recht zu setzen. Das heißt, inhaltlich ist dieses statutarische Gesetzgebungsrecht an den Kreis der Gewohnheiten gebunden. Und von daher erklärt sich auch, dass man sagt, ein echtes, ein wirkliches, ein freies Gesetzgebungsrecht kann eine Stadt nur ganz ausnahmsweise haben, wenn das ein Fürst ausdrücklich anerkennt. Nun, dieser Blick in die Literatur des 17. und noch 18. Jahrhunderts zeigt, dass die Problematik, wie sich Territorialrecht und Stadtrecht verhält, noch bis zur Aufklärung von einer aktuellen Bedeutung ist. Als letzten Punkt möchte ich aber dann doch folgende Fragen aufwerfen. Viertens, wir müssen davon ausgehen, dass in der Mitte des 18. Jahrhunderts es ja nicht die kommunale Rechtskultur ist, die Wege in die Zukunft weist, sondern die Zukunft gehört dem Staat und der Vereinheitlichung der territorialen, der staatlichen Gesetzgebung. Infolgedessen ist die Problematik, spiegelt die Problematik der städtischen Statuten im Territorialstaat den Übergang vom Stadtbürgertum zum Untertanenstatus allgemeiner Art wider. Das heißt, das Stadtrecht verliert seine Potenz zugunsten des staatlichen Rechts in der Stellung des Untertanen gegenüber dem Fürsten und dann des Bürgers im reorganisierten Staat des 19. Jahrhunderts. Diese Entwicklung wird man auch unter allgemeinen Aspekten überdenken müssen. Insofern komme ich nun wieder zurück auf den Einstieg bei Herrn Dilcher. Es ist die Frage, warum dieses Stadtrecht sich nicht als entwicklungsfähig bis in die moderne Zeit erwiesen hat und vom Territorialrecht überlagert wurde. Eine geläufige Antwort lautet, dass es wohl die größere politische Potenz der dynastisch-adligen Obrigkeit gewesen ist, der gegenüber die Stadtobrigkeit und das städtische Statutarrecht schwächer blieb, gewohnheitsgebundener blieb und keine politischen Entwicklungsmöglichkeiten mehr hatte. Der Absolutismus erscheint dann als eine befreite weltliche Gewalt. Eine andere Möglichkeit, diese Frage zu beantworten, wäre zu überlegen, ob es nicht eine Tendenz zur Bildung übergreifender politischer Einheiten in der europäischen Geschichte gibt, eben von der Stadt zum Territorialstaat, von dort weiter zum nationalen Staat. Die Entwicklung in Italien scheint sich aus deutscher Sicht von dieser Stufenfolge dadurch zu unterscheiden, dass die Einbindung in den Fürstenstaat entweder schwächer ausgebildet war oder vielfach überhaupt übersprungen wurde, weil schon im Spätmittelalter der Stadtstaat, die Stadt sich auch als Staat konstituierte, nicht, wenn man an die großen oberitalienischen Städte denkt. Ich danke Ihnen für Ihre Geduld. Ja, ich glaube, nun können wir in die Diskussion einsteigen. Jeder bediene sich jener Sprache, die ihm geläufig ist. Wir sind in der Lage, beides zu verstehen, Herr Kitulin. Mein Name ist Ebel aus Berlin. Ich möchte zeitlich zunächst ansetzen bei dem, was von Herrn Dilcher referiert wurde und auch von Ihnen, Herr Willoweit, dann ausgeführt wurde. Nur einige Punkte ganz kurz zur Diskussion zu stellen versuchen, und zwar solche, die ich nicht in meinem Referat morgen ansprechen will, obwohl das damit auch zusammenhängt. Zur Frage der Schriftlichkeit meine ich auch, dass der Sachsenspiegel hier stark überschätzt wird, was das Landrecht angeht. Die Überlieferung der Handschriften, so wie wir sie haben, zeigt eindeutig, dass sich im dörflichen Bereich überhaupt nichts erhalten hat. Das müsste hier eventuell doch auch mit einbezogen werden. Im Übrigen ist der Bereich Ostdeutschlands, das heißt östlich der Elbe bis Polen hinein, von ganz anderer Entwicklung als das übrige Deutsche Reich. Dort ist das Landrecht dem Stadtrecht nachgefolgt und kann mit den anderen Gebieten meines Erachtens praktisch nicht verglichen werden, auch nicht, soweit sich der Sachsenspiegel in Niedersachsen unmittelbar im Altreichsgebiet verbreitet hat. Zur Frage des Inhalts der Stadtrecht und dem Verhältnis Stadtrecht und altes Recht. Es ist seit Gerhard Buchter bekannt, dass sich etwa in Thüringen in den Städten als Willkürrecht fränkisches Recht erhalten hat, obwohl sich der Rest des Landes, bedingt vor allem durch die Intensität auch des Landesherrn, dem Sachsenrecht unterworfen hat, also dem Sachsenspiegel. Also hier ein ganz eindeutiger Zusammenhang. Und das knüpft an eine Bemerkung von Herrn Willoweit am Ende. Diese interessante Beobachtung aus der sächsischen Literatur mag vielleicht auch gerade diesen Punkt ansprechen, denn hier wird, und zwar im Wege der italienischen Statutentheorie, dieses Willkürrecht als Statutenrecht eben als Bestandteil des Jus Commune betrachtet, allerdings insoweit auch eng ausgelegt und deswegen vielleicht beschränkt inhaltlich auf sehr althergebrachtes. Ich verweise hier vor allem auf die Arbeit von Herrn Wiegand, die vielleicht bekannt ist. Im Übrigen stellt sich, und das zu Ihnen direkt dann hier im Anschluss, Herr Willoweit, doch die Frage bei der Modernität, ob man hier nicht auf die Entwicklung der Kanzleien stärker eingehen müsste, die sich nicht nur in den Städten, sondern an den größeren Fürstenhöfen jedenfalls doch auch verhältnismäßig modern und auch mit Juristen besetzt entfaltet haben. Im Übrigen werde ich morgen Beispiele bringen, dass sich Verhältnis, also Recht zu Willkür, Sie haben hier meinen Vater erwähnt und ich darf hier nicht aus dem üblichen Sohnestrotz etwas abweichend argumentieren. Ich meine, es ist an seinem libyschen Recht auch schon herauszulesen, dass Recht keineswegs auf Eigen und Erbe beschränkt, umgekehrt die Willküren, auch gerade frühe Willküren, Eigen und Erbe betreffen. Und im Übrigen in Lübeck jedenfalls vom Rat der Stadt Lübeck der Inhalt von Willküren als gemeinlübisches Recht aufgefasst werden. Hier sind frühere Positionen, die vielleicht etwas sehr zupackend und griffig formuliert worden sind, im Alter von Wilhelm Ebel schon relativiert worden. Und das führt dann auch zur weiteren Frage des Adressaten, wobei mir der einfache Dualismus Recht zum Richter und Willkür zum Bürger vielleicht doch auch zu sehr schwarz-weiß gemalt erscheint. Vielen Dank. Ja, darf ich zunächst um weitere Wortmeldungen bitten? Schiera, io volevo riprendere una sollecitazione che il professor Willoweit ha fatto A proposito della centralità per il mondo tedesco, sia nella dimensione teorica che in quella pratica, del concetto di Ordnung, ecco, questo mi sembra un punto cruciale e sarebbe importante che forse sia Willoweit che Chitolini su questo punto ritornassero per vedere se sopra questo concetto di Ordnung si possono stabilire eventualmente delle differenze specifiche o delle affinità fra il mondo italiano e tedesco, anche se credo questo concetto di Ordnung vada visto non solo nel senso di ordinanza, che è il significato originario, ma anche nel suo significato più astratto, che il termine acquista come ordinamento poi, e ancora più proprio quasi come leitmotiv politico, insomma, cioè come ziel, come scopo, come legittimazione ultima di un potere sempre più adeguato al mutare delle circostanze, quindi forse proprio come legittimazione del potere del principe rispetto a un potere invece di tipo cittadino. Ma Willoweit ha sottolineato come questo concetto, questo termine concetto Ordnung sia per lui da considerare uno dei principali concetti politici chiave di questa fase di transizione, ormai siamo a questo punto fra Medioevo e Età Moderna, eppure poi per giustificare ciò, per giustificare questa sua affermazione, Willoweit stesso ha dovuto continuamente rifarsi a un altro concetto, che è il concetto di polizai. Io credo che questo concetto di polizai sia alla fine ancora più importante come concetto politico guida del concetto di Ordnung, ed è rispetto a questo territorio, a questo ambito della polizai, che a mio avviso si gioca il, almeno in Germania, il rapporto fra Recht e Ordnung, e quindi è rispetto a questo ambito della polizei che mutano anche le coordinate del potere, e è rispetto forse a questo concetto di polizei che si verifica davvero il passaggio dalla condizione di cittadino, di Stadtbürger, alla condizione di suddito, di Untertan. Ecco, questo concetto di polizai che ha a che fare con, forse, da quello che ho capito dalla relazione di Willoweit, ha a che fare forse, diciamo così, più con l'aspetto sociale della vita, no? Con le è un Verhaltenrecht, sono Verhaltennormen, sono norme di comportamento, sono norme che riguardano le nuove emergenze della vita associata, sottospinte di carattere economico, culturale e così via. Sono norme che regolano la vita economica e la Freizeit, no? E la vita quotidiana, insomma. Ecco. Questo è davvero il momento di fermento. Allora io vorrei chiedere anche agli italiani, io non lo so perché mi sono occupato tante volte di questo problema della polizia, ma in Italia, per l'Italia, ecco, come si colloca questo problema? Esiste, e come si colloca questo problema della polizia? Come lo si chiama? Dove va a finire? Chi lo gestisce? per l'Italia, no? Che significato ha questo appunto nuovo campo? E però anche per la Germania. Il tema della Polizei è davvero solo è davvero solo un tema di comportamento, oppure è il vero campo su cui il nuovo principe riesce a costruire la sua legittimazione al potere? E le Kanzleien, la nuova burocrazia, non è forse proprio rispetto a questo tema della Polizei che trovano il loro campo di azione, insomma, di esercizio? Quindi la mia, insomma, conclusivamente, il tema che io vorrei riprendere per metterlo anche appunto in discussione è questo della capacità che rispettivamente in Italia e in Germania si realizza storicamente di mettere sotto controllo normativo nuovi spazi di esistenza che, pur avendo il loro centro nella città, abbisognano tuttavia di una capacità di uniformazione, di omologazione sempre più ampia. Vielen Dank, Herr Kollege Spierer, für dieses ausführliche Statement. Da ich jetzt doch zweimal heftig angesprochen worden bin, möchte ich vielleicht vorher, bevor wir dann die Diskussion weiterfahren und sich vielleicht Abstimmung nehmen, nochmal kurz auf die Einwände oder Bekräftigungen und Fragen eingehen. Ich habe die Dinge hier natürlich bewusst ein bisschen überspitzt, nicht? Recht richtet sich an den Richter, die Ordnung an den Untertanen. Das ist eine Vereinfachung, aber eines Sachverhaltes, den ich doch auch für, muss ich sagen, fundamental halte. Und ich habe Ihre Intervention, Herr Skira, insofern auch eher als eine Bestätigung und eine Vertiefung eigentlich meiner Position verstanden. Ich glaube in der Tat, dass die Entstehung des Territorialstaates, ich kann da allerdings nur für die deutschen Verhältnisse sprechen, mich würde es auch interessieren, wie es eigentlich in Italien mit der Polizei aussieht, aber dass die Entstehung des Territorialstaates in Deutschland im 15. Jahrhundert in der Tat sehr viel damit zu tun hat, dass die Territorialherren sich einen Tätigkeitsbereich erobern, der ihnen bis dahin nicht zugänglich war. Und das hat etwas mit dem Niedergang der Kirche im 15. Jahrhundert zu tun. Das Stichwort in der Forschung für diesen Sachverhalt heißt normalerweise vorreformatorisches Kirchenregiment. Das ist eine Zeit, in der die Landesherren anfangen, kirchliche Angelegenheiten zu regeln und damit auch eine Menge von Materien, die bis dahin der kirchlichen Moralpraxis überlassen waren. Also Fragen der Feiertagsheiligung, des Gottesdienstbesuches bis hinein in das Sexualverhalten, dass solche Fragen nun von der Staatsgewalt geregelt werden. Und hinzu kommt der ganze Komplex des Wirtschaftslebens. Es gibt also sehr frühe Landesordnung aus dem 15. Jahrhundert, eine thüringische, ich glaube von 1445 oder so, habe ich in Erinnerung, die liest sich wie ein komplettes Wirtschaftsprogramm, wirtschaftspolitisches Programm. Dieses Betätigungsfeld ist etwas Neues und eröffnet in der Tat auf den einzelnen Menschen Zugriffe, die bis dahin so ein adliger Herr nicht hatte, die ihn auch gar nicht interessiert haben. Man hat um Erwerb gekämpft, um sein Standesehre, sein Ansehen, das Ansehen, das Prestige der Familie versucht zu fördern, aber dass das Interesse sich von diesem dynastischen Bereich verlagert auf eine Verhaltenssteuerung breiter Bevölkerungskreise, das scheint mir etwas Neues zu sein. Deswegen habe ich das so betont, was jetzt herauskommt an Ordnungen und an Befehlen und so weiter, das richtet sich in der Tat an jedermann. Und das scheint mir ein bisschen anders, etwas anderes zu sein, ob man ein Landrecht macht, das offenkundig für den Gerichtsgebrauch bestimmt ist. Da sehe ich eine gewisse Differenz, auch wenn sich das natürlich überschneidet in vielen Bereichen. Das versteht sich von selbst. In einem Landrecht sind eben auch Regeln für das Verhalten vor Gericht enthalten, die jedermann betreffen, das ist ganz klar. Aber es ist ein Unterschied, ob ein Landesherr dann eben Ordnungen über den Wirtshausbesuch oder den Gottesdienstbesuch und ähnliches oder über die Bestrafung von Ehebrechern und so etwas erlässt. Also ich glaube, dass das ein globaler Vorgang ist und dass er den Staat in der Tat neu legitimiert hat. Die Reformation konnte in Deutschland darauf aufbauen. Das war eigentlich vorbereitet am Beginn des 16. Jahrhunderts. Dankbar bin ich für den Hinweis auf die Kanzleien. Das ist in der Tat ein wesentlicher Punkt. Es ist in Deutschland zwar so, dass die Städte, die großen Städte, früher gelehrte Juristen beschäftigt haben als die Landesherren. Also die Reichsstadt Nürnberg hatte im 14. Jahrhundert bereits regelrechte Syndici, die nicht im Rat saßen, sondern als Gutachter für den Rat tätig waren. Und später haben sie ihre Söhne besonders nach Bologna geschickt. Nicht nach Heidelberg, also nicht in die kirchlich-kanonistisch geprägten Fakultäten, sondern gerne nach Bologna, um das weltliche Recht zu lernen. Die Herzöge von Bayern haben erst in der Mitte des 15. Jahrhunderts, meine ich, die ersten Juristen gehabt, also sicher 100 Jahre später. Und seitdem die da aber tätig waren, begannen sie Gesetze zu machen. Das ist ein Feld, das auch noch nicht richtig erforscht ist bei uns. Es gibt dafür einige Beispiele. Also man weiß, dass das württembergische Landrecht, ich glaube von 1555, komplett von Juristen erarbeitet ist. Da sind auch die Materialien ediert worden. Und man weiß auch, dass an vielen Polizeiordnungen Juristen mitgewirkt haben. Also der Jurist hat besonders auch die Schriftlichkeit des Rechts und die schriftliche Fixierung des Rechts betrieben und gefördert. Das ist ganz sicher. Und insofern ist die Entwicklung des Kanzleiwesens, die Modernisierung des Kanzleiwesens, besonders in der Zeit Maximilians I., ein wesentlicher Faktor für die Stärkung des Territorialstaates gewesen. Ja, mehr möchte ich dazu aber nicht sagen. Vittorini, haben Sie noch? No, questo intervento di Schiera mi sembra importante perché è diciamo, l'aspetto così, non so dire se centrale o no, speculare per esempio alle cose che ho ricordato sull'esistenza di un diritto, sulla forte durata e tenuta di un diritto cittadino, ecco. E quindi credo che sia un tema su cui bisognerà tornare continuamente in questi giorni. Io per il momento non direi altro che questo. Il concetto di polizai, ecco, è uno di quegli altri concetti che non hanno non a caso un diretto riscontro, insomma, un po' perché la polizai in Italia c'è prima del XV secolo o così, un po' perché la polizai, per quello che si può dire, continua ad essere materia di governo cittadino. Insomma, molte questioni, io credo, che restano qui, in alcune città perlomeno, di competenze di governo cittadino. una cosa. L'altra cosa è che qui non ho capito bene, ma bisogna però distinguere, secondo me, nettamente fra quando parliamo di fra diritto e potere politico, perché sono due cose che non coincidono affatto, no? C'è una dimensione giuridica che è collegata senz'altro all'altra, ma costituisce anche un elemento di mediazione filtrante spesso pesantemente, e ci sono quindi degli sviluppi non coordinati, no? In direzione della statalità o non statalità del diritto, e questo è un elemento che mi sembra importante da tenere presente. Per quello che riguarda l'esperienza XV secolo, ecco sì, direi anche in materia di polizai io sento abbastanza il ruolo della città, insomma, sia sul piano della normazione sia sul piano dell'attuazione di certe attività, di certi, sì, per esempio, non so, una serie di questioni relative proprio a forme di vita in città, a questioni di approvvigionamento urbano, a questioni di liti, di danni dati, eccetera, sono quelle materie che restano più facilmente in mano ai cittadini, nel senso che o sono proprio specificamente riservate a tribunali officiati da giuristi urbani, o rientrano in quelle forme di giudizio che magari formalmente delegate a tribunali del principe, però attraverso, ad esempio, il Consilium Sapientis ritornano di competenza di un ceto di giuristi locali. Ma questa è una situazione che ha molte varianti in Italia ed è in evoluzione. Io, per esempio, oltre la metà del Cinquecento, non so bene come vanno queste cose, ma è un discorso che bisognerà riprendere. Es ist sicher notwendig, dass man sich zu Beginn einer solchen wöchentlichen Unterhaltung über die Begriffe, über die Zentralbegriffe einigt. Was ist Stadtrecht, was ist Landrecht und so weiter. Es ist notwendig, damit man eine Basis der Verständigung hat. Ich habe große Zweifel, ob man aber dies so betreiben sollte, wie es in den Punkten von Dilcher angerissen wurde. Landrecht ist die Abwesenheit von Stadtrecht, Stadtrecht ist die Abwesenheit von Landrecht oder sonst wie. So geht es nicht. Ich glaube, dass man eigentlich erst nach dem Studium der Quellen, und zwar der Primärquellen, sagen kann, was wurde aus der Sicht der Zeit als autonomes Statutarrecht der Stadt verwendet, wie artikulierte sich dies, mehr kann man nicht sagen. Das ist so eine kleine methodische, kleine Vorbemerkung. Zweitens, dass bereits 15. und 16. Jahrhundert, das hier angesprochen wurde, als die Zeit, die kritisch ist für die Existenz des Stadtrechtes, weil der Territorialstaat plötzlich mit seiner Gesetzgebungsgewalt hineinregiert, Polizei als Stichwort, Kanzlei, ich möchte noch eins sagen, noch mehr sagen, das Behördenwesen, das zentralistische Behördenwesen des Territorialstaates, diese Zeit ist das Ende, jedenfalls in Deutschland, ist das Ende der Eigenständigkeit der Städte. Das wird ganz genau zu dokumentieren sein. Hier bricht der Landesherr mit seiner über die Polizeigesetzgebung in die Autonomie der Städte ein. Und hier kommt es zu einer Reduktion, die im 18. Jahrhundert bei Null ist für Statutarrecht. Und zu allerletzter, letzter Punkt. Wir sprechen und gehen einfach von der Existenz von Städten aus. Städte. Ich glaube, wir haben keine großen Vorstellungen, wie wir uns Städte im 15., im 16. Jahrhundert vorstellen sollen. Was konstituiert eine Stadt eigentlich? Ja, die Antwort lautet Stadtrecht, Stadtgemeinde, Satzungsautonomie, alles viel zu juristisch. Die soziale Realität ist, so fürchte ich, ganz anders. Ich habe, als ich mich auf diesen Vortrag hier vorbereitet habe, in den mir zur Verfügung stehenden Quellen gelesen des 16. Jahrhunderts. Und da fand ich etwas, was möglicherweise repräsentativ ist für diese Zeit. Im 16. Jahrhundert besucht der bayerische, noch Herzog Maximilian I., Landshut. Landshut war eine Metropole gewesen, ein Regierungssitz, jahrhundertelang. Und was findet er vor? Einem Dorf ähnelnde menschliche Ansiedlung. Ich zitiere so ein bisschen aus dem Gedächtnis, die Menschen liefen in Lumpen herum, sie ähneln, also in schlechter Kleidung, sie ähneln Bauern, sind keine Städte, von der Stadt sind nur Steine und Mauern erhalten. Das ist die soziale Realität einer Stadt, einer herausgehobenen Stadt, ich betone, in Süddeutschland im 16. Jahrhundert. Ich befürchte, dass die soziale Realität für eine Vielzahl der Städte nicht anders gewesen ist, als hier dieses Beispiel. Deswegen werden vielleicht unsere Überlegungen zum Statutarrecht sich auch von der Soziologie der Stadt, von der Realität der Stadt bestimmen lassen müssen. Das waren alles nur Fragezeichen, Anmerkungen und im Wesentlichen nur zum Schluss eine ganz kleine Frage an Sie, Herr Willowald. Was verstehen Sie unter begrenzten Eingriffen des Landesherrn in die Autonomie der Städte? Sie sagten, das Stadtrecht erhält sich im Wesentlichen. Sie haben dann gesagt, dann kamen die Ordnungen. Das war die zweite Stufe. Mich würde interessieren, was sind begrenzte Eingriffe? Begrenzte Eingriffe, da meinte ich speziell den Bereich des Rechts, aber das kann man ja auf der territorialen Ebene auch studieren. Es ist ja nicht so, dass im 15. Jahrhundert und auch noch im 16. Jahrhundert, auch noch im 17. Jahrhundert umfassende Neukodifikationen des alten Rechts geschaffen werden. Das alte Recht kann einheimische Rechtsgewohnheit sein. Es ist mittlerweile vielfach schon jus commune, Gelehrtenrecht, das man aus Büchern zieht, aber es wird doch nicht komplett umgesetzt in große Gesetzgebungstexte, die das alles regeln, sondern die Gesetzgebung zum Bereich des Rechts, die dann auch sich so nennt, Landrecht oder irgendwo ein Edikt zu irgendeinem bestimmten Punkt, ja, die ist eben begrenzt, meist insofern, als nur wenige Fragen geregelt werden. Ich meine, das muss man ja zur Kenntnis nehmen. Also ein schönes Beispiel ist die Gesetzgebung zum Eintrittsrecht der Enkel. Wenn also von mehreren Geschwistern einer verstorben ist und nun die Frage auftritt, ob jetzt nur die Geschwister erben oder ob auch die Enkel zu berücksichtigen sind, das heißt in der Erbfolge nach den Großeltern. Nicht? Dieses Problem ist mehrfach gesetzlich geregelt worden, in ganz gegensätzlicher Form, auch in Städten von Landesherren, schließlich reichsgesetzlich unter Karl V., weiß Gott, wie es in der Praxis dann wirklich gelaufen ist. Das ist so ein Problem, das die Leute stark erregt hat und infolgedessen hat man hier Gesetze erlassen, die also in alte Rechtsmaterien eingriffen. Die Sache hat ja eine jahrhundertelange Geschichte im Mittelalter, nicht bekanntlich. Und so gibt es noch einige. Es gibt dann meinetwegen ein Landrecht, das enthält ein paar Regeln über Kaufrecht. Aber das Ganze ist doch sehr selektiv. Das meinte ich damit. Also es ist nicht so sehr Anerkennung etwa städtischer Autonomie, ihr dürft euer altes Recht behalten, sondern es ist eine Zurückhaltung in der Gesetzgebung in diesem Bereich überhaupt. Wobei Bayern natürlich mit seiner relativ dichten Abfolge von Landrechten eher also schon fast ein Gegenbeispiel ist. Das ist das Maximum. So viele Landrechte hintereinander, glaube ich, hat kein Territorium in Deutschland gehabt. Nicht jedes Jahrhundert eins, bis ins 18. Jahr hinein. Sondern es ist einfach zunächst eine Zurückhaltung gegenüber dem Herkommen der Gerichte, dem alten Recht in den Gerichten, und dann eine Zurückhaltung gegenüber dem gelehrten Recht, das die studierten Richter gelernt haben an den Universitäten. Es besteht ja gar kein Bedarf, da gesetzgeberisch tätig zu werden. Und das ist, meine ich, im Bereich der Ordnungen, die ja eben auch anders heißen, quellenmäßig, das müssen wir auch einfach zur Kenntnis nehmen, wohl anders. Da ist viel eher also ein umfassender Regelungswille zu erkennen. Nicht, das sind natürlich nur annäherungsweise Aussagen, die man da machen kann. Aber ich meine damit eben, dass noch im 16. Jahrhundert, noch im 17. Jahrhundert, und das ändert sich dann eigentlich erst unter dem Einfluss des Naturrechts, die umfassende Kodifikation, nicht, die möglichst alle Bereiche des Soziallebens erfassen will, eben so noch nicht existent ist, sondern dass man dafür dann eben auf das Jus Commune zurückgreift oder in Sachsen eben auf die sächsische Rechtstradition, aber nicht auf ein Gesetzbuch. Das meinte ich. Und in diesem Zusammenhang hat nun in den Städten lokales Recht überdauert. Also ich weiß nicht, wie es in Bayern ist, aber für Franken kann man das sicher sagen. Da hat also jedes Städtchen zum Teil bis 1900 eigene Rechtsmaterien gehabt. Jede fränkische Stadt konnte und hat zum Teil gehabt ein eigenes Ehegüterrecht zum Beispiel. Das ist ganz verschieden gewesen. Das hat da überlebt. In relazione alla questione, se non ho capito male, della necessità di definire meglio un concetto di città. Ecco, e in relazione alla proposta che mi pare lei ha fatto di una considerazione anche economica e sociologica di cosa sia una città, io direi che per l'Italia questo criterio non vale, no? In Italia c'è un concetto giuridico molto preciso di che cosa è una città, no? Cioè sede diocesana, poi diventata libero comune cittadino e quindi promossa, diciamo, a questo numero chiuso di città che resta praticamente bloccato, salvo pochissime eccezioni, fino al 500, no? Per le zone, diciamo, di forte impianto della civiltà comunale, non per le zone marginali, alpine oppure anche lo stato della Chiesa, dove la condizione giuridica è diversa. Quindi il criterio che suggerisce lei sarebbe fuorviante in Italia, perché troviamo molti centri che sono ricchi e popolati più di città, ma non sono giuridicamente città. E il loro statuto, appunto, non è equiparabile allo statuto urbano. Ecco, cioè una, diciamo, definizione abbastanza precisa che a me pare arriva sicuramente nel cuore del Cinquecento e di cui nell'opinione comune il senso di un cambiamento si ha con Botero, direi, soprattutto. Lì l'immagine di città che salta fuori in Botero è già una città diversa da quella della tradizione comunale italiana. Prego. Fasano, Università di Pisa. Ecco, io tornerei un momento sul problema che è emerso adesso, cioè della definizione di città, e in relazione a questo, su un problema che in parte è emerso già prima attraverso l'intervento di Schiera e direi anche attraverso le relazioni di Chitolini e del professor Villovai, e cioè sugli ambiti della legislazione statutaria. Cioè io ho l'impressione che una cosa importante da fare e che sarebbe bene fare anche nei giorni successivi è quello proprio di entrare nel merito dei contenuti degli statuti, nel senso di definire, ecco, quali sono i limiti, i caratteri specifici, gli oggetti della relazione, dell'attività statutaria da una parte e delle attività degli altri poteri, chiamiamoli legislativi, cioè degli altri centri che emettono e creano legislazione. In questo senso io ho l'impressione che anche in Italia, in fondo, la definizione di città giuridica che adesso ha richiamato Chitolini e che è senz'altro vera, non è forse del tutto sufficiente. Cioè, io in Toscana, per esempio, non vedo in questo modo, con questa nettezza, la differenza tra statuti cittadini e una serie di statuti di località che città non sono, ma sono terre o addirittura sono castelli. La mia impressione è che, in sostanza, ci sia una correlazione tra, diciamo, ambiti dell'attività statutaria e in qualche modo necessità specifiche anche di certe società. Cioè, per esempio, Chitolini ha sottolineato nella sua relazione iniziale come nella storiografia tedesca molto spesso si parta dal jus mercatorum. Ora, e quindi il jus mercatorum sia in sostanza un elemento probabilmente centrale e specifico dello Stadtrecht, in relazione appunto e in opposizione agli, agli altri ambiti del Recht. Ora, nelle città italiane è così? Cioè lo statuto della città italiana è nello stesso modo, in qualche modo proprio immediatamente legato e primariamente legato all'ambiente mercantile, alle esigenze proprio di dare diritto, di creare diritto in relazione alle attività mercantili, o ha invece un asse diverso, cioè è veramente l'asse appunto di un segue gli assi, le direttive, le esigenze di enti che sono sovrani e hanno molto più probabilmente che non la città tedesca una loro proiezione sul contado, non solo nel senso che dominano il contado, ma nel senso che hanno e si pongono una serie di problemi legati, per esempio, al diritto di proprietà della terra, al contratto agrario, al contratto agrario, allo scioglimento dei contratti, al debito dei contadini, eccetera. Ecco, in questi ambiti invece chi norma in Germania, chi fa legge in Germania, è la città oppure la città non se ne interessa e sono altri poteri? Cioè io ho l'impressione che il rapporto tra centri legislativi, diciamo, tra autorità legislative si può anche vedere, si deve anche vedere in modo molto concreto, entrando proprio nel merito degli ambiti e dei contenuti. Appunto, io sono d'accordissimo su questo e proprio nel fatto che lo statuto cittadino fin dall'inizio, ma di più dal 300, statuisce su questioni relative alla proprietà della terra, a certe forme di contratti agrari, per esempio privilegiando il diritto del concessionario rispetto a quello del concedente, oppure introducendo delle norme costrittive sull'attività dei contadini sulle terre dei cittadini, facendo diventare quello che era norma di diritto privato nel contratto agrario fra un cittadino e un contadino una norma di diritto pubblico, cioè per il bene del comune. Ecco, in questo si vede la differenza rispetto a uno statuto che invece, come si dice, ma credo che poi non a questo punto siano gli statuti tedeschi, ha una attenzione particolare invece ha problemi che derivano da quel nocciolo di mercanti, a una citazione da Tirreni, intorno a cui nasce anche un nuovo statuto, insomma. Quindi sono d'accordo anch'io con questa già preliminare differenza, ecco, che appunto proprio perché in Italia appunto anche per la costituzione sociale della città, questi vassalli, proprietari fondiari che sono già in città nel momento di formazione del comune, ecco, non può trascurare una serie di una dimensione territoriale che continua ad essere presente, anzi poi ripresa nel 400, insomma, direi fin dall'inizio. Sono anche molto d'accordo, e qui il discorso diventa che appunto bisogna entrare nel merito poi delle normative, insomma, dei singoli casi, che la vera linea di discrimine fra questi ambiti di legislazione si riscontra non tanto in certe affermazioni di principio, no? Vale questo decreto contro questo statuto, eccetera, ma in una appunto delimitazione molto frastagliata che concretamente si delineava nella prassi delle corti di giustizia, insomma, forse più ancora che nella dottrina, e questo credo che sia difficilissimo da seguire, almeno per le fonti che abbiamo. Una breve richiesta su un punto specifico. Chitolini prima ha detto una cosa molto importante nella sua prima risposta sulla non coincidenza tra diritto e potere politico, e credo che questo sia molto importante anche nello studio degli statuti. La domanda mia è questa, insomma, ecco. La funzione degli istituti non è soltanto come Gesetzbücher, insomma, non sono solo Gesetzbücher, ma sono anche fonte di potere, nel senso appunto di fissare le norme anche di rappresentanza e di proiezione, quindi. Probabilmente, ecco, credo che nei nostri lavori debba essere tenuta presente non soltanto la parte normativa, ma complementariamente a quello che diceva adesso la Fasano, insomma, ecco, vedere come il potere nasceva in base ai problemi, insomma. Da questo punto di vista credo che già nella forma, ecco, noi abbiamo una diversità tra gli Eidbücher e invece le raccolte statutarie italiane. Ecco. Nel senso che sono costituiti magari da memorie private delle ecco, cioè negli Eidbücher proprio questa stratificazione avviene in modo diverso fin dall'inizio, proprio anche, ecco, che riflessi ha? Questa era la sostanza della domanda, anche nella formazione del potere, insomma, nella legittimazione del potere, questo diversa stratificazione, diverso modo di questa diversa genesi, insomma, ecco, degli ordinamenti, insomma. Ich darf vielleicht noch zwei ganz kleine Anmerkungen machen zu der Frage von Herrn Schlosser und den Antworten, die vor allem auch aus dem italienischen Bereich gekommen sind. Für den Osten Deutschlands jedenfalls ist es völlig klar, was Stadt war und was nicht. Seit der Gründung im 13. Jahrhundert, bis es dann im 17. halt keine Rolle mehr spielte. Also da kann man, glaube ich, rechtlich eine sehr scharfe Unterscheidung treffen, auch wenn soziologisch manche kleine Ackerbürgerstadt wirklich nicht mehr war als ein größeres Dorf. Und eine zweite Anmerkung zu dem Bereich der Gesetzgebung selbst und im Verhältnis zum Jus Commune. Seit dem späten 15. Jahrhundert haben wir in den Städten, aber ganz gleichförmig auch in den Ländern, Reformationen des Rechts, die sich ganz äußerlich fast gleich geben wie die Ordnungen und häufig auch mit ihnen in einem Text verbunden sind, eine Prozessordnung, an die sich dann Regelungen des materiellen Rechts, gelegentlich Änderungen, häufig nur Wiedergaben des Jus Commune finden und die dann im 17. Jahrhundert so umfangreich werden wie gesamte Lehrbücher des Jus Commune. Ich erinnere hier nur an das vielleicht ausführlichste, das Landrecht des Herzogtums Preußen von 1620. Und wenn man hier die Adressatenfrage stellt, bei diesen sehr lateinisch abgefassten Quellen, glaube ich, kann man auch dann, wenn sie sich als Ordnungen zunächst geben, keinen anderen als den Richter vorstellen, zumal sie inhaltlich Jus Commune bieten und durchaus ja Anstöße haben aus der italienischen Tradition, hier dann in einer merkwürdigen Weise der Statutentheorie, die in Italien entwickelt wird und mit den Juristen nach Deutschland einwandert, einerseits aufnimmt, auf der anderen Seite aber auch dadurch, dass das Jus Commune seinerseits zum Inhalt des Statutum wird, auf einer etwas höheren Ebene sich wieder aufheben lässt. Weitere Wortmeldungen? Bitte sehr. Rossetti Pisa, non vorrei sfondare delle porte già aperte o ampiamente aperte. Certamente quello che noto è che qui si dimenticano forse un po' quelle che sono le origini di tutta questa tematica della legislazione, in quanto che ci sono particolarmente storici tardo-medievisti e proto-modernisti. Ecco, il medioevo dell'origine del diritto consuetudinario dello Jus Commune è il medioevo dell'XI-XII secolo, diciamo pure anche del XIII secolo, che qui però sono un po' in ombra, anche se rimangono sullo sfondo. Ora, uno dei più importanti rovesciamenti di cui si è fatto cenno, mi pare, nella individuazione delle caratteristiche delle città italiane per rapporto alle città tedesche, è proprio quello che è ius commune nelle città tedesche, cioè la continuità del diritto, chiamiamolo romano-germanico, da noi è romano-germanico, ma è quello che discende dalla unità dell'impero, diciamo così, è diritto consuetudinario per le città italiane, è ius commune per le città tedesche. Questo incomincia a porre dei problemi di glossario, mi pare, molto gravi, e non soltanto di glossario per quello che riguarda i contenuti. Quindi uno dei primi grandi problemi da risolvere è proprio questo, l'appello ai contenuti che faceva la Fasano va anche rinviato alle origini di questa grande modificazione. Però io ho notato una cosa, e per aspetti che riguardano più propriamente il mondo mercantile e dunque il problema della legislazione mercantile. Le città tedesche, quelle città tedesche che sono interessate all'unitaria circolazione europea, che parte come iniziativa, se vogliamo, dalle città italiane, ma coinvolge molto presto anche le città tedesche, sono altrettanto precoci nel fare una statuizione riguardo a questa materia, ma è una statuizione che nel sociale entra anche più profondamente, perché tra la seconda metà del XII secolo e la prima metà del XIII secolo include ad esempio la regolamentazione della immigrazione non soltanto dalle città italiane, faccio per dire, o di qualsiasi altra area del Mediterraneo, ma anche dalle altre città tedesche, verso quelle città che sono centri di attività produttive e dove convergono, ad esempio, ed è uno dei sono i grandi movimenti di popolazione che hanno interessato la Germania, credo, sono questi, convergono per esempio per l'apprendistato nell'apprendistato nelle arti, diciamo. Ecco, di questo ne abbiamo discusso abbastanza ampiamente in uno dei convegni che noi abbiamo fatto proprio sul sistema dei rapporti in Europa. Allora mi pare che tutto sommato trovare la strada di un filo rosso comune sia qualche volta un problema di approccio, cioè un problema di attacco della materia da un'ottica nella quale venga, attraverso la quale venga agevolato il discorso comparativo. E allora quale può essere l'ottica comune? Tanto la coscienza che non si può separare il problema della legislazione dal problema delle istituzioni, cioè delle strutture del potere, dal problema delle funzioni. Il problema, ad esempio, qui quello che è stato chiamato l'ordnung o polizei o viceversa polizei, diciamo in Italia è una funzione che è espletata da organismi di potere particolari, che sono quegli organismi di potere, diciamo, che vengono in luce, che emergono quando incominciano i governi di popolo, che sono, sarà a Pisa l'anzianato, da un'altra parte si chiamerà Senato, in qualsiasi modo si chiami, sono quelli che però producono legislazione, cioè le provisioni. Queste provisioni certamente, siccome anche gli statuti subiscono delle revisioni, qualche volta entrano nella materia statutaria. Non c'entrano nel primo momento, c'entrano in un secondo momento. Allora, prima cosa chiediamoci di quale diritto stiamo cercando di parlare, cioè di quel diritto che è entrato solo negli statuti quindi semplicemente il diritto statutario, oppure del diritto che si fa giorno per giorno. Allora risolviamo anche quei problemi di ordnung, di polizei e via dicendo, che esistono perfettamente, ugualmente, magari la funzione è espletata da organismi diversi, ma esistono anche in Italia, non possono non esistere anche in Italia. La mia esperienza è quella di cercare di trattare contemporaneamente queste differenti fonti, perché altrimenti non veniamo a capo della comprensione della modificazione socio-istituzionale, politica e neppure legislativa, dunque a nessun livello. Non c'è statuto, ad esempio, per fare un esempio particolare, delle arti che non abbia dato in qualche modo, e noi sappiamo quanto in Italia siano diffusi e con quale precocità, che non abbia dato un contributo alla formazione dei grandi statuti generali, di quelli che sono chiamati gli statuti del comune. Se io voglio capire, ad esempio, per una città come Pisa, di importanza capitale, quali sono le prerogative dell'Ordine del Mare, e l'Ordine del Mare a Pisa non ha prerogative soltanto economiche, anzi ha soprattutto prerogative politiche. Per conoscere le prerogative dell'Ordine del Mare io devo conoscere l'Ordine dei Mercanti, devo conoscere i brevi del Comune e arrivare a quell'unico grande statuto comunale della seconda metà del 200, che è il collettore di tutta l'esperienza giuridica precedente. Ecco, questo tipo di problemi, secondo me, è fondamentale per farci uscire fuori da alcuni fantasmi che ci portiamo dietro, qualche volta criticamente. Io credo che per la Germania il fantasma più ingombrante sia l'impero. E in fondo, come per l'Italia, certamente di fantasmi ce ne sono altri, l'impero è uno di questi. Gli studiosi tedeschi che si occupano dell'Italia sono sempre tentati, non so, ad esempio per il fatto che ci sono i ceti feudali all'interno della compagine comunale, di affermare che non è successo niente, ecco, confondendo il piano sociale con quello politico, con quello legislativo e così via. Voglio dire, avrei dovuto parlare di più dei difetti di approccio, diciamo così, degli italiani, ma ecco, ci sono molti fantasmi di cui dobbiamo liberarci, e che uno di questi è questa suddivisione strana tra gli organismi di potere, la legislazione. Tutto questo va trattato, secondo me, su un piano orizzontale e non con compartimenti stagni, altrimenti non ne verremo a capo. Io sono convinta che se per esempio si facesse a ritroso per le città tedesche il cammino dalla Polizei all'Ordnung e così via, si comincerebbe col fare una gerarchia di città, perché ci si accorgerebbe che certo tipo di ufficiali figurano soltanto in determinate città, altre ne hanno magari di un livello inferiore, di una... e questo significa qualcosa. A quel punto si sa quali sono le città che sono ad un certo livello. Io credo, anche per l'Italia funziona questo, non lo so. Ecco, allora anche i compartimenti cronologici cadrebbero, perché ci sono delle continuità che sono incredibili e che vanno avanti anche negli stati moderni. Insomma, la grande indipendenza delle nostre città è un'indipendenza vigilata, ma certamente alla base in questi statuti delle municipalità, nelle più antiche, ma addirittura in quel diritto consuetudinario per lo ius comune tedesco, che, di cui si continua a chiedere il rispetto, perché non si può andare oltre un certo limite al di là del quale esiste solo l'autonomia propria delle singole città, che pur l'impero, lontano o vicino, secondo i tempi, rispettava. Chiedo scusa, forse mi sono dilungata troppo. No, una cosa non ho capito bene, il rapporto che hai stabilito tra diritto comune, diritto consuetudinario e diritto romano nelle città italiane prima del comune. Questo non l'ho capito bene. Scusate. Non ho... Allora, è un brevissimo codicillo. Per noi lo ius comune si basa sull'immissione del diritto romano a partire dalla scuola di Irnerio in poi. Quello che precede diventa il diritto consuetudinario, ma è quel diritto che abbiamo sempre chiamato comunque, per città come le nostre di tradizione romana, il diritto romano-germanico, che è quel diritto, se voi volete, chiamiamolo direttamente germanico, se voi volete, diciamo, è quello che vale finché esiste la presenza dell'impero nelle città italiane, che è lo ius comune delle città tedesche. Questo io, almeno da quello che avete detto questa mattina, ho creduto di poter vincere, e da quello che mi è capitato di leggere, ecco, questo è il discorso. Per noi lo ius comune comincia quando c'è il rinnovamento provocato dal diritto romano, e francamente le città sono dall'altra parte. Le città sono dall'altra parte a difendere il loro diritto consuetudinario, cioè quella tradizione romano-germanica che è anche lo ius comune delle città tedesche. Io li vedo molto vicine a questo punto, le une alle altre, perché non dimentichiamo che il primo a... in fondo a combattere, diciamo così, le libertà delle città italiane, sono libertà che sono nate nel seno dell'impero, sono nate come concessioni graziose, come privilegio e via dicendo, è il Barbarossa che però il Barbarossa fa ricorso al diritto romano per combattere le città. Insomma, voglio dire, non è solo un problema di glossario quello che dobbiamo risolvere, è un problema di gestione del potere ed è un problema di rinnovamento delle istituzioni e delle istituzioni capaci di legiferare, che va avanti nel tempo. Ecco, era solo questo intreccio che mi premeva di mettere in risalto. Sì, ecco, a me pare che in Italia la precocità del fenomeno statutario ha schiacciato anche nella prospettiva storiografica questo momento, diciamo, di un diritto che non è statutario, per cui si è creata proprio una sovrapposizione massiccia di piani intorno al diritto statutario, insomma, perché nella prospettiva è lì, e questo è stato rimproverato a storici italiani, da storici non italiani, perché in Italia non studiate la consuetudine, no? Che è il campo di battaglia di tanti storici del diritto in Europa. E un po' è vero, perché non è che... un po' anche proprio perché subito, molto presto, compare questa cosa che è nuova non solo per i contenuti, cioè il diritto statutario, ma anche proprio per quella prepotente rivendicazione a legiferare di cui i comuni si sentono, come dire, capaci e investiti, insomma. Comunque, dopo semmai continuiamo. Scheri Siena. Ma io, per ricominciare da dove finisce Chitolini, direi però che lì c'è anche un problema, c'è stata una fortissima tradizione storiografica proproprio sul periodo pre-ireniano, cosiddetto periodo, no? Tamassia, Leist, ci sono un'infinità di studi, no? Pivano. E quindi forse c'è stato proprio la precocità dello studio delle consuetudini del diritto nella documentazione vivente, del diritto vivente nei cartulari, ad esempio, no? Noi abbiamo tra 800 e i primi 900, ci sono degli studi ancora oggi molto belli, insomma, no? Ecco, quello può in parte, dico, spiegare questo fatto. Così come forse, sai, questa frantumazione, la nostra frammentazione giuridica può avere spiegato anche poi questa mancanza di studi sugli statuti dal punto di vista che ti sarebbe piaciuto e che ho ritrovato nella tua relazione di stamattina. Però non è che la storia della legislazione non ci sia, no? Ad esempio, sai, Lamantia, Sclopis, insomma, ci sono state queste storie della legislazione. Semmai il problema è che sono sempre state viste un po' come momenti di preparazione alla codificazione. Ecco, spesso sono delle storie della legislazione che vanno lette in chiave ideologica. Ecco perché sono difficili o altrimenti inutili oggi. Sono diventate degli strumenti di lavoro a volte inutili proprio per questo, perché o sono mere raccolte di dati, elenchi telefonici, quasi con le date degli statuti, delle leggi e così via, o altrimenti appunto sono visti in questa chiave. Per il diritto territoriale, beh, noi dobbiamo tener conto però di alcuni fenomeni, insomma, in Savoia naturalmente, nel Regno di Sicilia, insomma, qui Dilcher oggi non c'è, ma insomma lì evidentemente ci sono state delle ampie aree con dei diritti territoriali piuttosto importanti, dico le costituzioni egidiane, no? Questi fenomeni molto noti, che sono dei diritti quadro naturalmente che non escludono ovviamente poi degli statuti anche cittadini molto robusti. Ecco, il problema però, e qui sono rimasto ancora al contorno, sono venuto invece per parlare di un'altra cosa, cioè credo che noi dobbiamo cominciare a capir meglio che la parola statuto è uno scatolone in cui ci si possono mettere le scarpe di qualsiasi tipo. Ecco, questo naturalmente lo abbiamo tutti chiaro, però poi nei particolari finiamo in alcuni casi per non ricordarcene. E quindi naturalmente una cosa non soltanto è lo statuto rurale e lo statuto cittadino, di castello e così via, ovviamente. Ma noi anche i grandi centri, diciamo grandi perché autonomi, hanno degli statuti molto differenziati e appunto quell'automatismo statuto città, statuto potere politico, io non lo vedo, insomma, perché a volte ci sono dei centri anche minori che hanno degli statuti estremamente sviluppati, no? Così chissà, dico, c'era una scuola notarile più attiva, c'era stato qualche giurista che ha stimolato, ci sono invece dei centri che hanno degli statuti invece obsoleti, eppure da un punto di vista politico possono contare moltissimo, ad esempio, no? Ecco, non so, mi riferisco al caso di Firenze, è un caso quasi emblematico, che ha uno statuto che è enorme, fatto nel primo 400, che praticamente non entra in applicazione o viene applicato soltanto in parte, eppure Firenze è stato quel che è stato, insomma, ed è arrivata tranquillamente a fine 700, al 1808, con quello statuto. Il criterio poi della città, ecco, è anche un criterio della città vescovile che mi trova poco consenziente, proprio perché noi abbiamo alcuni centri che almeno nel 200 sono stati significativi pur senza essere centri vescovili, insomma, anche centri di organizzazione del territorio. Dico, io adesso penso, solo perché li ho più vicini e li conosco meglio, ma Montalcino, centri della Valdelsa ad esempio, che non sono mai state sedi vescovili e che insomma hanno avuto e hanno lasciato degli statuti notevoli, devo dire, anche se con questi criteri contenutistici poi dovremo metterci d'accordo, insomma. L'altro punto è quello della ambiguità dello statuto, perché noi abbiamo un po' ereditato questa teoria che ci è stata presentata nelle fonti in questo modo, che lo statuto è l'ius proprium civitatis, naturalmente, no? E che è il diritto dei cives. Questo è vero solo fino a un certo punto, qui appunto per anche il problema delle ordnungen si risolve in parte in questo modo, credo. Cioè, Da un lato è vero che è diritto personale dei Cives, ancora nel 300 si parla dello statuto come del diritto giurato dai Cives, per cui il forestiero è naturalmente un estraneo a questo diritto, il diritto statutario non c'entra, è cosa nostra. E infatti ci sono vari comuni che escludono l'applicazione delle norme statutarie esplicitamente, insomma, allo straniero, no? Ma l'ambiguità è che molti statuti sin dall'inizio hanno anche una normativa di carattere territoriale. Quanto più una città appunto ha una proiezione sul territorio, quanto più appunto diventa centro di organizzazione del territorio, a tutto finisce per essere anche Landesrecht per un'ampia area, senza escludere naturalmente gli statuti poi di gli statuti più limitati che fanno parte del contado, naturalmente gli statuti non vengono meno. Ecco, quindi questa ambiguità del termine io credo che vada sempre tenuta molto presente, insomma. L'altro punto è questo dello Ius Mercatorum di cui si parlava. Ora qui io ho l'impressione che bisogna ricordare che lo Ius Mercatorum è un diritto che nasce consuetudinariamente e rimane essenzialmente consuetudinario, proprio perché è un diritto dei traffici, insomma, no? È un diritto che disciplina la prassi del commercio tra persone che sono di ordinamenti diversi. Quindi spesso le norme che noi troviamo negli statuti sono delle norme o che rinforzano delle prassi consuetudinarie, recepiscono a livello cittadino delle norme consuetudinarie, o sono delle norme che appunto vogliono garantire un ceto mercantile cittadino che anche la curia del podestà rispetterà quelle norme. Cioè è un modo per rinforzare un diritto che nasce e che rimane consuetudinario per larghi tratti, anche perché pensiamo a tutta questa grossa problematica che c'è dei libri guarentigiati, no? Dei documento guarentigiato, che è un documento che spesso rimane estraneo alla prassi mercantile, perché non ne hanno bisogno, perché loro non hanno bisogno di documenti formali, e qui c'è tutto il discorso del documento notarile e documento non notarile, perché noi conosciamo spesso un mondo che è quello formale dei notai, e poi c'è tutto l'ampio mondo della contrattazione privata mercantile tra persone appartenenti appunto a ordinamenti diversi che applicano un loro diritto. Quanto è vero appunto che il diritto non è statuale in questo periodo, no? Noi troviamo piuttosto, ecco, degli statuti, negli statuti comunali, adesso non diciamo cittadini perché anche statuto cittadino è ambiguo, qual è lo statuto cittadino? È quello ad esempio della mercanzia o quello del comune, noi per tradizione intendiamo lo statuto comunale. Ecco, lo statuto comunale disciplina delle procedure essenzialmente di diritto mercantile, ma non va a poi nel concreto delle clausole. Io non credo che ci siano norme statutarie che disciplinino il contratto di assicurazione, non ne ho mai viste. Eppure il contratto di assicurazione da fine 200, primo 300, insomma, è un contratto, il contratto di nolo marittimo, questi contratti, forse il Costitutum Usus di Pisa, però ecco il compito per Gabriella, ecco, mi sembra che questo siano alcuni punti da riflettere, perché altrimenti abbiamo una visione incompleta appunto del fenomeno. Forse noi dovremmo scontrarci con un tema, perché questi temi per generi forse sono un po', finiscono poi per porre molti problemi. Forse sarebbe più semplice parlare il diritto delle città medievali, il diritto della città europea, ecco, una cosa di questo genere. Scusate. Subito e dichiariamo subito che non vogliamo perderci nel dramma che cosa è città, che cosa non è città. Non era questo quello a cui io volevo arrivare, per carità. C'è un problema di articolazione politica che è molto fondamentale. Ci sono, quanti sono gli organismi politici in una città che sono in grado di legiferare? Che poi tu mi dica che una Montalcino c'ha anche lei il suo statuto, noi abbiamo i piccoli comuni del Garda che ci hanno dato degli statuti meravigliosi Milano, la sua tradizione statutaria è Milano, e Milano non riusciamo a beccarla perché è sparita. Voglio dire, ecco, chiariamo subito questo, perché si tratta di un'articolazione di organismi di potere, di organismi in grado di legiferare, che fa sì che il discorso diventi il discorso complesso dello statuto, che è il collettore di tutte queste forze politiche, le quali tutte hanno qualcosa da dire e tutte vogliono un posto al sole, insomma, in qualche modo. Anche una... No, le precisazioni di Ascheri mi sono sembrate molto opportune, ecco. Io aggiungevo qualcosa su due punti. D'accordissimo sul pericolo di vedere lo statuto come un'etichetta, insomma, che copre delle cose diversissime, qui bisogna stare attenti. Non frantumiamo forse neanche troppo un concetto di statuto che anche là dove è povero, attraverso quei meccanismi che voi eravate bravissimi a mettere in atto, cioè l'interpretazione, l'analogia, eccetera, soprattutto verso il tardo Medioevo, anche sulla base di un testo normativo limitato, può caricarsi di una quantità, no? Di articolazioni, no? Cioè alcune città non sentono il bisogno di rifare uno statuto perché il diritto statutario che è diventato locale si è arricchito per altre vie di una serie di... Ecco, quindi d'accordo. E allora da questo punto di vista, anche senza cadere nelle esagerazioni di quei diritti che hanno parlato di un sistema di diritto statutario contro cui Gualazzini e altri sono intervenuti, secondo me giustamente, per cui ridimensionando, però l'idea dalla specola tardo medievale che fra 300 e 400 ci siano delle città che hanno una loro organica generale legislazione statutaria, un po' in mente, devo confesso che ce l'ho, poi adesso non so fino a che punto è giustificato. Rispetto poi all'altro problema degli statuti minori, insomma, qui, anche qui sono d'accordo che bisogna stare molto attento. E sono d'accordo su un'altra cosa, se ne parlava Erice, settembre scorso, no? Quando la diversa articolazione dei territori nelle diverse regioni italiane. Per esempio la Lombardia, che io ho più presente, ma il Veneto in parte l'Emilia, non la Romagna, hanno questo impianto di grandi comuni cittadini, no? In cui la distinzione fra città e non città è proprio nettissima. Direi proprio il confine dell'Italia longobarda, lì insomma non c'è dubbio, addirittura quando Leandro Alberti in metà del Cinquecento scrive delle città italiane, scusate, questa è una citazione che ho già fatto in un'altra occasione, ma mi sembra significativa, e dice: bene, ma ci sono alcune cittaduzze, castra, che le chiamano città, ma mi fanno ridere, non sono città, perché le vere città sono quelle che sono state municipio romano, diocesi, e così, adesso che poi Carpi lo chiamino città o Casale Monferrato lo chiamino città, ma va bene, insomma. Ecco, quello è un concetto, secondo me, che in area lombarda è preciso. Ecco, lasciamo da parte lo Stato Pontificio, dove anche in relazione al fatto che il Papa poteva creare delle città, c'è una dinamica molto più vivace, no? Cioè ci sono città nuove. In Toscana mi sembra una situazione intermedia, dove c'è questo vecchio impianto di città antiche, con oscillazioni di contadi, per esempio quello lucchese, no? Che si allarga, poi si restringe, poi si allarga ancora e poi si restringe, proprio a seconda. E quindi c'è un reticolato di città, diciamo, di tradizione, con degli interstizi, però che in effetti non ci sono, credo, in Lombardia, e sono riempiti adesso. Perché ecco, adesso chiamarli interstizi forse è limitativo se uno pensa a Prato, a Montalcino, però dal punto di vista della portata territoriale, insomma, io chiederei quanti chilometri quadrati era Montalcino, ecco, o Prato, Prato 142 mi sembra, no? E di fronte ai 3.000 chilometri quadrati di Bologna o di Reggio, di Piacenza, sì, è una città che ha un territorio, che ha una legislazione, è una terra che ha un territorio, che ha una legislazione articolata, ma così è qualche cosa che è cresciuto, insomma, per motivi particolari, in una strutturazione politica, politico-giuridica, che va per altre linee importanti. Ma questo, insomma, scusate, basta. weitere Wortmeldungen noch in diesem ersten Runde, dieser ersten Runde heute früh? Sonst ja, würde ich sagen, eben wir müssen nicht alles zu Ende diskutieren, was heute früh nachdenkenswert erschien. Dann darf ich allen Diskussionsrednern herzlich danken und den Vormittag zunächst einmal beschließen. Rudi? Ecco, andiamo nella mensa universitaria qui sulla destra, in questo edificio nuovo subito. Chi non avesse il buono può procurarselo su alla segreteria, ecco, al secondo piano. Insomma. Alle ore 15 pensavo, se